Allora, senza infingimenti, forse siamo anche un po' troppo così. Eccolo. Stavano a bere. Senti, vaffanculo, scusa il termine. Allora, cominciamo senza le normali prassi. Il presidente che dà la parola al compagno relatore, eccetera, eccetera. Quindi faccio da presidente. Come presidente do la parola all'esimio compagno Francesco Grisolia, detto Franco, per la relazione introduttiva, che ovviamente non sarà breve perché siamo per fare una discussione approfondita. Poi ci saranno ovviamente interventi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io comincio con una citazione di Lenin dal testo Il fallimento della Seconda Internazionale nel giugno 1915. Comincio da questo perché inquadra il metodo del leninista, che molto spesso, anzi quasi sempre, rispetto alla guerra imperialista, alla Prima Guerra Mondiale, è distorto e stravolto. La maggioranza presentano Lenin come un pacifista integrale, siamo per la pace, eccetera, eccetera. E gli ultrasinistri tendono a presentarlo come qualcuno che dice se si scontra la borghesia, comunque sia e sempre, noi siamo per il disfattismo, perché sono roba da borghesi. Questo non è così. Nel giugno 1915, quindi a un anno quasi dall'inizio della guerra mondiale, proprio per chiarire la sua posizione, Lenin scrive in questo testo, non avrebbe avuto necessità se non avesse voluto sottolineare il punto. Se questa guerra fosse isolata, cioè la guerra tra Austria-Ungheria e Serbia, se questa guerra fosse isolata, cioè non collegata con la guerra europea e con avidi scopi di rapina dell'Inghilterra, della Russia, eccetera, tutti i socialisti avrebbero l'obbligo di desiderare il successo della borghesia serba. Della borghesia serba, dice. Questa è l'unica deduzione giusta e assolutamente indispensabile derivante dal carattere nazionale della guerra attuale. Naturalmente la guerra Austro-Ungheria-Serbia è durata 2 giorni, perché in 2 giorni tutti che si aspettavano solo il momento giusto per lanciarsi gli un contro gli altri per le colonie, i profitti e quant'altro, si sono mobilitati e hanno dichiarato guerra. Entro il 4 agosto, il 31 c'è l'ultimatum, il 1 agosto le truppe serbe invadono, il 4 agosto c'è il famoso voto dei crediti di guerra e l'inizio della guerra. Per cui in 3 giorni la cosa deve. Però è importante che Lenin tende a sottolinearlo. Noi non abbiamo detto che in ogni caso noi saremmo stati disfattisti. Se la guerra fosse stata limitata a una guerra tra impero austro-ungarico e Serbia, cioè tra un imperialismo per quanto arretrato, straccione, bla bla bla, più militare che economico, cose che magari si risentono oggi, qualcuno le sente, no? Più militare che economico, e la Serbia, che non era certo una colonia o una semicolonia, ma non era un paese imperialista, il dovere dei socialisti ineliminabile sarebbe stato di stare con la borghesia serba contro l'impero austro-ungarico. Noi ci basiamo, non perché siamo dogmatici, ma perché insomma le posizioni storiche del marxismo le riteniamo in generale valide e quando non le riteniamo valide abbiamo il coraggio di dire che questa posizione sembra superata. A noi oggi questa posizione del 15 di Leni non ci sembra per niente superata. L'Ucraina è stata terra di confronto tra l'imperialismo occidentale e Russia negli ultimi 20 anni. Dico 20 anni e non 30, prima di dire, ma la Russia, l'URSS è saltata nel 31 di dicembre del 1991, quindi sarebbero 30 anni. No, perché in un primo periodo la Russia, che ha restaurato il capitalismo con le privatizzazioni selvagge del 94-95, cioè guardate un film, io posso girarlo perché ai compagni che lo vogliono, perché ce l'ho su, in ogni modo l'ho trovato su WhatsApp, oltre che averlo visto a Venezia perché l'ha andato a una mostra, che è l'intervista a Khodorkovsky, che è uno degli oligarchi degli anni 90, che poi, essendo dell'area, dell'area contro Putin, si è fatto 13 anni di galera perché non è scappato, ma forse gli ha salvato la vita, perché Berezkoi, quello che è scappato, poi l'hanno trovato chissà come impiccato suicida alla finestra del suo bagno, nella sua villa, nella campagna londinese. E lui racconta, dice, a un certo punto, a metà degli anni 90, noi avevamo in sette, controllavamo la metà dell'economia russa, e Yeltsin era un nostro pupazzo, alla faccia di chi anche nel movimento trotskista dice che ancora non è completata o si sta solo completando, o c'è una distinzione tra burocrazia e oligarchia capitalistica, eccetera. La restaurazione del capitalismo si è completata per la completata, è iniziata subito, si è completata per la metà degli anni 90. Ma appunto all'epoca di Yeltsin la Russia sembrava accettare, anche perché questi oligarchi, che come tutti gli altri derivavano dalla burocrazia, non da qualcuno che è venuto dall'America portato dagli imperialisti con i Marines, come aveva previsto Trotsky, dalla burocrazia, non c'è distinzione tra burocrazia e una nuova borghesia che nasce, chissà dove li trovano i soldi. I soldi li hanno trovati i burocrati che ce l'avevano. Famoso sistema delle privatizzazioni popolari, per cui davano le azioni delle aziende a tutti i lavoratori vendibili. Ora è ovvio che uno che ha un'azione per 1000 euro, diciamo, dice, che cazzo me ne faccio dell'azione? Mi danno 10 euro all'anno, se va bene. E c'è uno che dice, ti do 1000 euro, cazzo, mi ci compro, non so, la macchina, la prima rata della macchina, mi ci sistemo la casa, insomma, quello che sia. E tutti l'hanno venduta a chi? Ai grandi dirigenti che ne avevano avute intanto 100.000, ma poi che avevano un fracco di soldi dai privilegi che avevano avuto preventivamente, a cui in ogni modo le banche prestavano, che erano in mano agli oligarchi, prestavano facilmente soldi. La prova più evidente nella figura di Černomyrdin, che fu anche primo ministro, un po' meno ubriaco di Yeltsin, quindi un pochino anche più serio, tanto per dire, in quell'epoca, e che era il maggior azionista della Gazprom. Ora, cosa era prima del 91 Černomyrdin? Era il ministro, c'era un casino di ministri, ministro secondario, diciamo, non del primo livello, in Russia 50 ministri, ministro al gas e al petrolio della Repubblica Socialista Sovietica, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, e ovviamente divenne poi il proprietario privato. È vero che poi la Gazprom fu rinazionalizzata, almeno in larga misura con una piccola partecipazione privata da Putin, che vedeva in questo settore della burocrazia un suo nemico. Ma la Lukoil, quella che tra l'altro a proposito dell'inesistenza dell'imperialismo russo c'ha il più grosso stabilimento di trasformazione petrolifera d'Italia, non so se avete letto, quando ci sono state le sanzioni contro la Russia, è scoppiato il casino, perché il vecchio stabilimento, non mi ricordo se era di Rovelli o di chi, di lì a Ragusa, vicino a Ragusa, Priolo Melilli, è della Lukoil. E quindi dicevano, ma voi state tranquilli, servite per raffinare il petrolio italiano. Cioè, quindi, a proposito di la Russia non ha capitali investiti all'estero, guarda un po'. E il proprietario principale, proprietario privato della Lukoil, è il vice ministro del vecchio Černomyrdin all'epoca dell'URSS, del settore gas e petrolio. Per cui Černomyrdin, che non era della partita vincente, poi forse anche morto, non lo so sinceramente, Non era più padrone di niente, i suoi figli, eccetera, eccetera. Fermo restando che li hanno ripagati, quando non è che li hanno espropriati senza indennizzo, li hanno ripagati con i soldini, quindi hanno investito su altri terreni. Ma la Lukoil è ancora oggi proprietà di un vecchio burocrate dell'epoca d'oro del socialismo cosiddetto, virgolette, per gli stalinisti russo, che oggi è un proprietario privato. E ce n'è decine e decine, centinaia, quello che era del KGB, quello che era della scuola di formazione marxista, quello che era, quindi è la burocrazia. Però la burocrazia trasformata in nuova borghesia oligarchica negli anni 90 non aveva un interesse, diciamo, geopolitico. Era ancora debole, l'economia russa degli anni 90 era un disastro, contrariamente a chi non ha mai saputo vedere gli alti e bassi dell'economia capitalistica, che ci sono, continuano ad esserci, come ai tempi di Marx, di Lenin, eccetera, di Trotsky, cadute, boom e via dicendo. Gli anni 90 fu un anno, periodo disastroso, perché con le privatizzazioni a quattro soldi, tra l'altro, l'economia era al disastro. E quindi non avevano una opzione imperialista. Yeltsin badava a reggersi in piedi e restare presidente tra una sbronza e l'altra. Chernomyrdin era proprietario della Gazprom e gli bastava, e altri burocrati, insomma, si ponevano in questo terreno. Persino il primo Putin, nel 2000, quando, se non sbaglio, era ancora primo ministro di Yeltsin, propose a Clinton, come si dice, io non c'ero, ma i giornalisti c'erano, quindi qualcuno l'ha sentito, io l'ho letto perché lì non c'ero, ma lo dicono tutti che è stata così. Propose a propose a Clinton, il presidente americano nell'ultimo suo periodo, prima che arrivasse Bush, dice: ma noi come Russia potremmo entrare anche noi nella NATO. E pare che Clinton gli abbia risposto con una pacca sulla spalla e un leggero sorriso, perché naturalmente non pensavano di aver bisogno della Russia, da un lato troppo potente per essere un partner secondario, malgrado tutto, e dall'altro troppo poco per vedere in questo un'alleanza utile per loro. Per cui lo sviluppo della Russia come potenza imperialista l'ha vista invece negli anni 2000, adesso se il passaggio è il 2007 o il 2009, insomma, ha poca importanza. Certo che la Russia si rinforza, ripeto, le privatizzazioni sono già state fatte, quindi non cambia molto. Sì, può darsi che la percentuale di privata dell'oltre 80-85% del PIL ha aumentato ancora un pochino, ma non è questo il problema, perché semmai al limite c'è qualche rinazionalizzazione per equilibrare, del resto anche l'IRI era stata fatta per equilibrare il capitalismo italiano negli anni 30 e poi nel dopoguerra. Può esserci qualche cambiamento, ma sostanzialmente il dato di fatto è che la Russia ha un boom economico, il suo ruolo di paese produttore di beni di consumo, gas e petrolio prima di tutto, si sviluppa ancora di più, comincia ad avere investimenti e soprattutto si rinforza politicamente. E in questo senso comincia Putin, il gruppo degli oligarchi più vicini a lui, oligarchi intendo quindi proprietari privati, teorici neoimperialisti russi a porsi il problema di un rapporto con l'Ucraina in nome dell'unità, su cui poi tornerò, del popolo russo. E questo sviluppo imperialistico, questo confronto in Ucraina avviene intorno a due coalizioni prioritarie di oligarchi, quindi capitalisti, ex burocrati anche lì, quasi tutti ucraini, che sono le cosiddette due cricche, vengono dette lì, la cricca di Donetsk e la cricca di Dniepetro, era Dniepetrovsky, ma poi l'hanno tolto perché era il nome di un ex dirigente dell'Unione Sovietica, del Dniepro, e tutte e due verso Oriente, ma una più occidentale, più verso il centro, Dniepro, e l'altra più nel Donbass, come sappiamo, Donetsk. Queste due cricche, naturalmente c'erano anche dei capitalisti di Leopoli e di Kiev, però c'è da dire che effettivamente, siccome la maggioranza della burocrazia, anche questo è significativo, ucraina, era russofona se non russa, quasi tutti i capitalisti non sono gente che viene dalla Rutenia, cioè la Ucraina occidentale, ma viene appunto per ex burocrati dalle zone russofone, la cosiddetta Nova Russia o zone vicine. Ad ogni modo, la distinzione tra le due cricche di capitalisti, che era la cricca di Donetsk, privilegiava, non esclusivamente, privilegiava i rapporti economici con la Russia in sviluppo per i propri interessi di profitto, non per altro, non per motivi ideologici. E la cricca di Dniepro privilegiava i rapporti con l'Europa occidentale, l'Unione Europea. Politicamente queste due cricche erano rappresentate da due partiti e due figure centrali. Due partiti borghesi che erano in grado, soprattutto uno, che poi adesso vi dico, di controllare la stragrande maggioranza del voto ucraino, perché il Partito Comunista Ucraino, che aveva quasi il 30%, più il Partito Socialista Popolare Ucraino, che era una scissione, ma sostanzialmente anche lì neostalinista sostanzialmente, che aveva un altro 5-6, quindi un terzo dell'elettorato votava per partiti di provenienza della vecchia tradizione dell'Unione Sovietica, con una politica di appoggio ai primi governanti, anche lì ex primo ministro Kuchma della Ucraina cosiddetta sovietica, bla bla bla, adesso non faccio la storia fino ad allora, perse rapidamente prestigio e immagine, accettò la restaurazione del capitalismo, anche lì avvenuta grosso modo in parallelo nei tempi con la Russia, e quindi in realtà l'elemento divisionale divenne quello più linguistico, non etnico, perché i russi sono circa il 20% della popolazione dell'Ucraina, i russofoni sono il 60%. Cioè quelli che parlano come prima lingua russa, tra cui Zelensky, tra l'altro. E questi due punti di riferimento, per la cricca di Donetsk, cioè verso la Russia, era Yanukovych, col cosiddetto partito delle regioni, perché prevedeva una larga autonomia che veniva bene al Donbass in quella situazione. Ad ogni modo, fondamentalmente per gli interessi economici della cricca di Donetsk. La cricca di Dniepetro era rappresentato dal partito Patria Nostra, mi pare che si chiamasse, diretto da un certo Yushchenko, però questa cosa più di destra, ma insomma, tra virgolette, ecco, più di destra, più liberale, più pro-occidentale, per motivi economici, aveva una maggiore divisione. C'erano per esempio il partito della Timoshenko, blocco Timoshenko, il partito di Poroshenko, che è la destra che si contrappose a Zelensky, tutte e due, nelle ultime elezioni presidenziali, sempre con varie manovre, perché per esempio Poroshenko all'inizio degli anni 2000 col suo partito aveva fatto un blocco col Partito Comunista, quando questo ancora contava, poi quando non contava più, ciao, e se n'è andata a destra. E quindi questo era il conflitto. Nel 2004 Yanukovych vince il ballottaggio delle elezioni per pochi voti, si sviluppa un movimento cosiddetto la rivoluzione arancione 2004 contro i brogli probabili nelle elezioni, la Corte Suprema Ucraina, che ha sempre agito un po' indipendentemente dalle... per esempio quella che ha rifiutato di mettere in galera i dirigenti dei partiti di sinistra oggi sciolti, perché Poroshenko li voleva far arrestare. La Corte ha detto no, perché avete sciolto i partiti, ma loro non hanno fatto niente di illegale perché erano dirigenti di partiti legali prima, quindi non rompete i coglioni. Scusate il termine un po' banale. E la Corte Suprema, che non è come in Russia ovviamente, annullò il ballottaggio dopo le mobilitazioni di piazza e per pochi voti vinse il secondo turno Yushchenko e l'ala pro-occidentale. E anche in questa situazione già si vide il fatto che nei territori del sud e dell'est il partito delle regioni andava all'80% e poi prendeva l'1% a Leopoli, ma veramente l'1%, esattamente il contrario, almeno per la Crimea, per quanto riguarda Yushchenko, 80% a Leopoli e 1%, anche 90% a Leopoli e 1% in Crimea. In questa situazione Yushchenko sballa e Yanukovych vince le elezioni successive del 2010. Sembra consolidarsi un approccio positivo verso la nuova borghesia oligarchica russa, verso Putin, quando avvengono i fatti di Maidan. I fatti di Maidan nascono in questi termini. Nel 2013, benché, come ho detto, Yanukovych rappresentasse la cricca di Donetsk, dei capitalisti, l'Unione Europea fece delle offerte interessanti. E gli stessi, non è che Yanukovych rompe con la cricca di Donetsk. La cricca di Donetsk dice, qui ci abbiamo degli affari da fare che la Russia non ci garantisce. E quindi Yanukovych accetta lui una ipotesi di adesione o avvicinamento progressivo all'Unione Europea. La Russia, già imperialista e già combattente, tra virgolette, di Putin, cosa fa? Reagisce e offre 15 miliardi nei fatti di dollari, nei fatti a fondo perduto, a lunghissima scadenza, per recuperare. E a questo punto i capitalisti del Donbass dicono va bene, meglio così, abbiamo obbligato i russi a finanziarci meglio degli occidentali. E Yanukovych fa la svolta, annulla l'accordo con l'Unione Europea. A questo punto scoppia un movimento di massa che include vari elementi, la corruzione, che del resto era quello che già aveva fatto cadere Yushchenko precedentemente, le questioni anche nazionali per quanto riguarda l'Ucraina. Tenete conto che Kiev è nella zona ucraina, tra virgolette, dell'Ucraina come linguaggio, la maggior parte, ecco, almeno la zona, se non Kiev capitale. E quindi si sviluppa un movimento di massa che noi abbiamo considerato reazionario. Certo, se vogliamo, i due contendenti erano i contendenti borghesi, ma in fondo c'era nel movimento di Maidan, anche se c'erano quattro anarchici e un semitroschista e mezzo, che del resto le presero le legnate dai fascisti quando si presentarono poi in piazza in maniera aperta, era un movimento spinto da elementi di estrema destra, il partito fascista Svoboda, che aveva preso il 10% alle elezioni, quindi il 20-25% nella parte ucrainofoba dell'Ucraina, e Pravdi Sektor, che erano neonazisti, diciamo Casa Pound, se volete usare un riferimento di questo tipo, che aveva preso il 2%, era piccolo, eccetera, ma erano molto attivi e anche armati. La reazione è molto forte da parte di Yanukovych, ci sono dei morti. A questo punto Yanukovych trovo un compromesso per andare a elezioni anticipate, che poi erano anticipate solo di 6 mesi, e con un governo di transizione, e riprendere la discussione con l'Unione Europea. Ma la piazza si era radicalizzata e a questo punto rifiuta questo accordo sotto la spinta degli elementi fascisti e nazisti, chiede l'abbandono della presidenza pure semplice da Yanukovych, no, che stia 6 mesi e poi ci siano le elezioni, e per un periodo ci sono fucilate da una parte e dall'altra. Naturalmente i prorussi dicono: ah, la CIA ha mandato gli agenti, come dire che gli ufficiali polacchi li hanno ammazzati i nazisti lì, sappiamo che sono palle. Certo, i fascisti rispondono con le armi, infatti ci sono morti tra gli uni e gli altri. Se l'abbia deciso Yanukovych, se sia stato il suo ministro degli interni, se sia stato il capo della polizia, questo non lo sappiamo. Ad ogni modo, questo radicalizza ancora di più, e a questo punto c'è la grande attacco anche al palazzo presidenziale. Yanukovych deve scappare e c'è un cambio, un semicolpo di Stato. La Rada, a parte qualcuno che se ne scappa, il Parlamento, 150 passano in un pomeriggio da una parte all'altra, da essere per Yanukovych a dire che deve essere arrestato per malversazioni, e c'è questo elemento. Noi in quella situazione ci schierammo contro Maidan, perché è chiaro che dall'altra parte non c'era il proletariato rivoluzionario, ma in effetti era una spinta a destra pro-occidentale, pro-imperialista, che tra l'altro metteva in discussione anche il diritto di autodeterminazione della popolazione russa e russofona di una parte dell'Ucraina che aveva volontà, se non indipendentistiche, almeno autonomistiche forti. Per questo ritenemmo che era del tutto logico che la Crimea tornasse alla Russia. La Crimea non è mai stata nell'Ucraina bolscevica, cioè dei tempi creata al tempo dei bolscevichi. È stata regalata all'Ucraina nel 1954 a Khrushchev, un po' perché anche lì pare che alla fine di una cena fosse particolarmente ubriaco ed era il 1000° anniversario della fondazione della Rus di Kiev, quindi dello Stato. Un po' perché c'era un problema di acqua per la Crimea, che era senza acqua, invece l'Ucraina, come avete visto, è ricca di fiumi e via dicendo, ma siccome un po' di margini di manovra anche le varie burocrazie nazionali l'avevano, i capi della burocrazia ucraina hanno detto: noi l'acqua alla Crimea non la diamo a gratis, perché Khrushchev diceva: sente, ve la regalo, così è vostra, l'acqua gliela dovete dare per irrigare i campi, per è quello che sia. E quindi era logico che tornasse alla Russia, come la volontà del 70-80% della popolazione era evidente. E d'altro canto, nel Donbass, la volontà di una maggioranza della popolazione di tirarsi fuori da un regime quale quello si era creato era, a nostro giudizio, evidente. Quindi, con tutte le contraddizioni su cui adesso non mi dilungo per questioni di tempo, noi abbiamo ritenuto giusto sostenere la rivolta del Donbass e sostenere anche le due repubbliche fino, mi viene alla battuta perché è un pochino più complesso, al 23 febbraio di questo anno, perché noi riconosciamo da leninisti il diritto di autodeterminazione dei popoli e anche dei settori. Poi, molto interessante, poi, se c'è tempo, ritornare sul metodo adottato dai bolscevichi su questo. In questa situazione, che dà il via a una guerra di bassa intensità in cui ci sono i famosi 14.000 morti, ma in Italia, dove, ripeto, la dominanza è di ideologia staliniana, che oggi si trasferisce dallo stalinismo dello Stato operaio degenerato al neozarismo borghese reazionario bonapartista della Russia di Putin, hanno massacrato 14.000 persone, è una palla. Allora, i 14.000 morti sono 4.000 combattenti delle forze dell'Ucraina, 6.600 combattenti delle forze delle repubbliche indipendenti, in cui c'era in mezzo ovviamente molti soldati o gente dei servizi segreti russi, E quindi i morti civili, quindi fate il conto, rimangono un 4-3.500, che non sono pochi evidentemente, ma sono da una parte e dall'altra, perché uno sparava verso Donetsk, che era occupata dai ribelli, e da Donetsk sparavano verso quelle città che hanno preso adesso, che è Severodonetsk, che era dall'altra parte, era occupato dagli ucraini. Quindi la valle del genocidio del 14.000... In questo quadro l'imperialismo stesso pensò giusto cercare di trovare una soluzione, e questi furono gli accordi di Minsk del 2015. Ora, una cosa importante, noi riteniamo che fossero accordi positivi. Noi diciamo, ma come? Accordi tra imperialismi borghesi? Anche qui li chiamo Lenin. Lenin contro Rosa Luxemburg, che diceva, ah, come si può pensare che ci siano accordi positivi per le nazionalità e le autodeterminazioni dei popoli sotto il capitalismo, citava la decisione di divisione pacifica tra Svezia e Norvegia. E dice, quando i settori estremisti della borghesia svedese sono stati messi in minoranza, perché la maggioranza della borghesia ha detto non ce ne frega niente per tenerci le aringhe norvegesi di fare una guerra costosa e negativa, noi siamo un piccolo imperialismo, loro no, è stato un accordo tra borghesie, e Lenin e tutta l'internazionale socialista sostenne allora questo accordo che impediva una guerra. Questo accordo di Minsk cosa prevedeva nella sostanza, perché le forme erano ambigue? Che l'Ucraina avrebbe mantenuto una situazione di paese indipendente e neutrale. Non avrebbe quindi ipotizzato l'adesione alla NATO. Sull'Unione Europea era meno chiaro. Secondo, che la Crimea restava la Russia. Non era scritto chiaramente, ma la sostanza. Terzo, che ci sarebbe stata una larga autonomia per il Donbass, tutto il Donbass, non solo quello pezzo già occupato dalle forze indipendentiste o autonomiste pro-russe. Questo accordo, e questa era un po' una follia, devo dire, in quei momenti, per quanto riguarda la questione dell'autonomia del Donbass, avrebbe dovuto essere ratificato in un referendum. Il punto che si è posto, e tutti dicono, i pro-putiniani, la NATO e l'Ucraina hanno fatto saltare gli accordi di Minsk. In larga misura è vero, non gliene fregava niente, anzi, non volevano rafforzare la Russia. Però la questione che si è posta lì è che gli ucraini hanno detto lo facciamo il referendum con la nostra polizia, voi ritirate le truppe, restano i separatisti ma non i russi, in loro aiuto, e la polizia ucraina controlla il referendum. E lui ci ha detto col cazzo, noi restiamo, e il referendum viene controllato dalle truppe delle repubbliche autonome, cioè che erano sotto ovviamente i russi. È chiaro che su questo non si sono mai messi d'accordo. Minsk non aveva previsto, va bene, c'è l'autonomia, punto. E in questo senso tutto è fallito. È continuato quindi la guerra a bassa intensità. Tuttavia, le tentativi di ritornarci ci sono stati, e paradossalmente ci sono stati proprio con Zelensky. Questa follia che Zelensky è nazista, come dire, Draghi è nazista, vabbè, posso dire, Letta è nazista, gli sputo in faccia e dico che è nazista, ma è un insulto. Intanto, dopo Maidan, paradossalmente, i fascisti e i nazisti hanno diminuito elettoralmente. Ma perché? Perché Svoboda, i fascisti, che era più forte, prendeva il 20% a Lov, perché c'era Yanukovych al potere, e a Lviv, perdono, vabbè, insomma, a Leopoli, per dire in italiano. E quindi votavano per i più radicali. Una volta che è sembrato che il rischio non c'era più, ha detto che mi frega di votare, cioè, erano fascisti ideologici, e hanno votato per Poroshenko, cioè per una destra conservatrice. E difatti l'alleanza tra fascisti e nazisti in tutta l'Ucraina ha preso il 2% alle ultime elezioni. Ma ci sono il battaglione Azov, è un battaglione di nazisti, Ma a parte il fatto che i nazisti ci sono, noi abbiamo anche una bella foto, no? Di un combattente putiniano con la svastica al petto, bello in fuori, nel battaglione Wagner, che si chiama Wagner perché si richiamano a quel povero Wagner. Lui non c'entrava un cazzo, era un po' antisemita, ma voglio dire, era anche quello che scappò da Dresda in rivoluzione, nel senso che era finita la rivoluzione e c'erano i prussiani insieme a Bakunin in carrozza, quindi non c'entra niente. Però sapete che per i nazisti Wagner era il massimo del pensiero, e quindi il battaglione Wagner non si chiama mica Wagner così, perché si chiama Wagner e non Nevsky, Alexander Nevsky, perché loro non sono solo nazionalisti russi, sono internazionalisti fascisti, punto. E poi sono 2000, anche contando tutte le forze, i battaglioni che si richiamano alla destra fascista tra le truppe di Kiev prima della guerra, erano 12.000 su 240.000, il 5%. Né c'era genocidio, è il genocidio dei russi. Appunto, hanno eletto un presidente che è russofono, il genocidio dei russofoni, poi dicevano. Cioè, sembra Hitler, io non dico che Putin sia nazista, ma sono veramente gli argomenti che diceva Hitler prima della guerra, ma ci stanno facendo il genocidio dei tedeschi in Polonia. Ma assolutamente invenzioni, tanto più in Ucraina. Anzi, appunto, Zelensky aveva nel suo programma e fu a sorpresa eletto al posto invece di Poroshenko, che fu sconfitto da lui, su un'ipotesi di pace. Intendiamoci, era molto vaga, anche lui aveva un magnate oligarca che si imponeva un po', sosteneva un po' tutti, dall'estrema destra al centro. Probabilmente che si era rotto le scatole ed era una situazione difficile, pensava che arrivare a una pace con i russi avrebbe reso meglio i suoi interessi, lui e di altri suoi amici oligarchi capitalisti. Però se questa cosa di pacificazione, cioè gli accordi di Minsk più o meno, avrebbero trovato l'appoggio forse della maggioranza della popolazione, dato il grande numero di russofoni, non dico, ripeto, non di russi, di russofoni, il quadro politico lo ha reso impossibile. Io anche veramente, chi segue, non a palle, gli avvenimenti in questi mesi, ha visto che Zelensky ogni tanto è riuscito dicendo certo, per recuperare la Crimea ci vorrebbero 10 anni, certo, ci vorrebbe 1 milione di persone, ci sarebbero 100.000 morti. Cioè ha lanciato dei messaggi dicendo che alla fine poteva essere cosa. L'ha cazziato Stoltenberg della NATO, e poi l'ha cazziato la sua vicepresidente, perché nell'ambito politico non sono disposti a un accordo di pace. Non che Zelensky sia una brava persona, Zelensky è quello che ha avuto, che è, ma è stato così. E quindi in questo quadro la Russia ha deciso di agire, con sorpresa di molti, anche nostra, non è che il partito aveva capito tutto, no? Ci ha meravigliato che arrivasse fino a questo punto, come tutto il mondo, a parte evidentemente gli americani hanno delle talpe profonde dentro il Cremlino, perché sennò non si vede come potevano saperlo. La Russia si è trasformata in questi anni in una potenza neoimperialista, già lo dicevo, a cui si accompagna la progressiva zaristizzazione di Putin. Perché il ruolo della personalità nella storia, qui potremmo aprire una lunga discussione, io credo, col compagno di lotta comunista, se ha le posizioni di lotta comunista. Credo che, insomma, Marx, Engels, Lenin, Plekhanov, eccetera, hanno sottolineato il ruolo della personalità della storia. Marx addirittura esagerando, perché a un certo punto dice che la politica estera inglese era determinata dal fatto che Palmerston, il primo ministro liberale, era pagato dai russi, finanziato dai russi. Che forse era un po' poco marxista, diciamo. Ma il ruolo della personalità è fondamentale. E Putin, malato, non malato, eccetera, certamente sempre più paranoico, che era già l'uomo che sostituì negli anni 90, anche lì io non c'ero, ma l'hanno scritto, il ritratto di Lenin nel suo ufficio a San Pietroburgo, ancora era Leningrado, col ritratto dello zar Pietro il Grande, che è il suo punto di riferimento. E da questo punto di vista sono cominciati i riferimenti ai teorici fascisti e semifascisti, zaristi e semizaristi. In primi Ivan Illich, che fu un profugo, perché Lenin normalmente non fucilava anche i pensatori reazionari. Li metteva sulla nave, gli dava un anno di grosso modo di soldi per sopravvivere all'inizio e poi diceva vai in Occidente, fai quello che vuoi. Lui andò in Occidente, all'inizio fu un grande partigiano di Hitler, poi quando verso la fine degli anni 30 capì che Hitler pensava che gli slavi erano subumani tutti, allora disse che no, lui non era fascista, eccetera, e disse che i suoi punti di riferimento erano Francisco Franco e Salazar. E quindi fascisti, non antisemiti e meno ideologici, ecco. E già nel 2015 Putin regalò a tutti gli alti funzionari russi per il 1° gennaio un'opera di Ivan Illich. Arrivò a tutti i burocrati che dovettero studiarsi, alcuni erano ovviamente ignoranti che cazzo era sto Ivan Illich di cui Putin gli faceva regalo dell'opera. C'è il ruolo di Dugin, che è un illiciano, era il capo della destra del Partito Nazional Bolscevico, un partito rosso-bruno dichiarato in Russia, che mischiava di tutto, Stalin, lo zar, però anche Trotsky non era poi così cattivo perché aveva fatto, era un soldato. E lui era il capo della destra più dichiaratamente fascista, che a un certo punto fece scissione per un po' tenne un partitino fascista e poi lo sciolse facendo una società culturale ed è uno dei consiglieri di Dugin. Una persona che mi dispiace molto dirlo, ma che è diventato un neozarista, Mikhalkov, il regista, che molti all'inizio nel vedere la Russia, quelli non potevano... Medvedev, io adesso non lo so, può darsi che... Non lo so, io ti dico Mikhalkov e poi la Chiesa Ortodossa russa, anche perché sai, siccome io mi sono trovato una russa che diceva, ripetendo cose della Chiesa, avete visto come... Quello è un pervertito, avete visto come sculetta la TV Zelensky. E quindi è una crociata contro gli omosessuali. E però il fatto fondamentale, che è vergognoso che una sinistra estrema non colga, è l'attacco a Lenin e ai bolscevichi. Sfortunatamente i nostri compagni trotskisti sono diverse centinaia, quelli del Partito Operaio Rivoluzionario, ce n'è anche di gruppi minori, ma non è che, come si dice, 1000 trotskisti, 1000 militanti trotskisti che magari hanno 100.000 sostenitori vari intorno, non fanno un problema per Putin. Per Putin era essenziale attaccare un concetto fondamentale della rivoluzione russa, il diritto di autodeterminazione dei popoli. Per cui la frase, che è una palla, che i bolscevichi si erano inventati l'esistenza di Ucraina e Belorussia. Una palla, perché già nel referendum, per dire, nel referendum zarista del 97, che pure gli zar proibivano la pubblicazione di libri in ucraino, non in parlare in ucraino, come per quanto riguarda la Catalogna, per esempio, sapete che era proibito parlare catalano per strada. In famiglia poteva, anche perché che cazzo c'era che ti guardava, ma per strada ti davano la multa come avessi messo male la macchina. No, lì potevi parlare ucraino per strada, però era proibito la pubblicazione di libri, giornali e riviste in ucraino. Poi un po' c'erano, più o meno legali, semilegali, eccetera, ma insomma formalmente c'era questo divieto. Eppure tra le 140 linguaggi che poi volevano dire nazionalità del referendum zarista del 1897, 141 mi pare fossero, dell'impero zarista, c'era l'ucraino ed era il secondo dopo il russo e il terzo era il bielorusso. Però certo Lenin ha voluto il diritto all'autodeterminazione dei popoli e ha voluto anche contro Stalin che l'Ucraina e la Bielorussia fossero repubbliche al pari della Repubblica Federativa Russa. Senza di questo, questi sono imbecilli e li buttano giù le statue, ma perché confondono il periodo di oppressione russa con la, gli ucraini sto parlando, con la rivoluzione russa. Amen, non lo capiscono. Ma senza Lenin non ci sarebbe stato oggi un'Ucraina indipendente. Sarebbe stata al massimo una regione dentro la federazione russa. Per questo l'attacco pazzesco a Lenin e ai bolscevichi comunisti che si sono inventati per ricostruire l'unità del popolo russo. È vent'anni che lo dice, forse l'avrà sempre detto, esiste un solo popolo russo, quello creato dalla Russia di origine variaga, cioè di origine vichinga, per usare i termini, o norrena, o come chiamano normanna, come chiamatela come volete, erano i norvegesi, andarono in Inghilterra, i danesi vennero qui da noi, vennero in Normandia e poi da lì da noi in Sicilia e nel meridione, e gli svedesi, sì, ad Aversa, ma poi anche in Sicilia, eccetera. E non parlare male dei miei nonni, secondo quello che dicevano la mia famiglia. E gli svedesi, la mia famiglia siciliana, visto che ho metà dei nonni siciliani, e gli svedesi invece andarono nella Russia. Paradossalmente, tra l'altro, il territorio della Rus di Kiev originario corrisponde all'attuale parte ucrainofoba della, perché il territorio che oggi è russofono era all'epoca abitata da tribù turche, o meglio di turchi che si erano sovrastati a popoli indoeuropei tipo sciiti, tipo iranico, tipo sciiti, sarmati e via dicendo. Ad ogni modo, l'attacco è questo, c'è un solo popolo, Belarus e Ucraina non hanno senso, per di più Putin ha detto fin dagli anni 2000 che la distruzione dell'URSS, in questo senso lui dice che fu un disastro, non perché cade il comunismo, tra virgolette comunismo, ma perché pose una divisione, intanto con l'Ucraina, la colpa dei bolscevichi, ma anche in generale con 25 milioni di russi fuori dalla Russia, che riguarda, lì non parlava ancora di ucraini, perché sennò sarebbero stati molto di più, solo gli ucraini sono 40 milioni, parlava dei russi etnici, che sono il 20%, quindi 8-9 milioni in Ucraina, sono 3 milioni mi pare, o 2 milioni in Belarus, erano il 40%, mi pare 8 milioni del Kazakistan, e poi minoranze più o meno significative, soprattutto nelle repubbliche baltiche. Noi abbiamo questo tentativo, secondo me, non la Polonia, cosa, a me sembra una cosa, anche se tutti i territori che furono dell'impero zarista sono un po' a rischio storicamente, ma non è questo. I punti, io credo, veri su cui vuole puntare Putin, se è possibile prima di morire, per apparire il nuovo zar Pietro I, sono recuperare Belarus, Bielorussia, dite come volete, e Ucraina, e io penso anche il Kazakistan, appunto perché c'era il 40%. In Belarus c'è già un pupazzo, anche se questo qui sta un po' stretto, perché avete visto, a un certo punto ha detto dura da un po' troppo tempo sta guerra in Ucraina. Però Putin ha detto, Ciccio, tu se ti faccio andare elezioni vere anche con un altro pupazzo mio, prendi il 20%, quindi stai zitto, perché se ci sei, l'Ucraina ci fa la guerra per papparsela tutta. E il Kazakistan, dopo la repressione della grande rivolta operaia, molto positiva e significativa, aveva proposto al nuovo capo pro-russo del Kazakistan, che ha succeduto a Nazarbayev, di lasciare le truppe russe lì. Devo dire che questo, essendo probabilmente non, è poco conosciuto, non un cretino, ha detto no, ci pensiamo da soli, ritirale le truppe, perché ha capito evidentemente che se Putin lasciava le truppe russe in Kazakistan, tra 3 o 4 anni il Kazakistan era un pupazzo e c'era la grande federazione, primo passo all'unificazione di tutti i popoli russi, quando, mentre invece i tatari, i baschiri, cioè le decine di milioni di persone non russe che vivono nella Federazione Russa, quelli no, non ne frega niente dei circassi, dei kalmuki, eccetera, eccetera, non c'entra. Non è che dice io rivoglio quei territori in cambio do la indipendenza a questi qua che non sono russi, per, certamente non sono russi, no, quello non c'entra. In questo senso l'invasione dell'Ucraina è in parte fallita, perché è chiaro che Putin sperava di vincere in una settimana. Questa è una cosa palese, lo dicono tutti, di nuovo ripeto, io non c'ero, non l'ho visto, però tutti i giornali hanno riportato che le truppe che hanno iniziato l'assalto su Kiev, non dal Donbass, su Kiev, avevano nel loro bagaglio le divise da parata. Dopo tre giorni vi ricordate che Putin ha detto che era bene, sarebbe stato bene che i militari ucraini facessero un colpo di Stato contro Zelensky, perché ci sarebbe potuto intendere meglio. Ma i militari ucraini non l'hanno fatto, e anzi hanno risposto a cannonate per quello che ci avevano. E quindi questo è fallito. Il che non vuol dire che la guerra sia finita, e io credo più Putin, questo è un elemento importante, più Putin guadagna, più lui è spinto a riprendere l'obiettivo iniziale. Non è che una volta persa Kiev e Kharkiv ha detto vabbè, mi metto in pace, cerco di prendere il sud e il Donbass. No, ogni volta che lui avanza per prendere il Donbass, ribombarda Kharkiv. E non solo per vendetta, come può fare verso Leopoli, che ma perché lui più guadagna, più vuole porsi il problema di... E anche se ci fosse un accordo, che Putin non vuole avere in nessun caso oggi, sarebbe una situazione all'israeliana. Cioè più territorio prende, più me lo tengo. Punto. E non c'è una trattativa, dice vabbè, ti restituisco una parte, toro se tu mi lasci, che ne so, il Donbass e la Crimea. Non esiste questo nella politica putiniana. Come ho detto, l'Ucraina è una nazione, io sì, nella storia, poi uno può discutere, il Portogallo era una nazione storicamente, fino al 1250 è stata una contea del Regno di Castiglia. Poi, siccome il Granduca di Portogallo ha vinto il re di Castiglia, ci si è messo il Papa che ha fatto la pace, gli hanno dato il re, diventato il re del Portogallo, che metà era ancora occupato dai musulmani. E le lingue si sono distinte. Non c'è un elemento, questa cosa che è tipica appunto della destra in realtà. Cioè, quelli sono un popolo. Noi, quello è un dialetto, noi siamo una lingua. La lingua è un dialetto che ha avuto fortuna. Come il toscano è diventato. Poteva benissimo essere che il toscano restasse al centro-nord e che al sud ci fosse il Napolo siciliano. Non è un elemento, l'elemento costitutivo è una comunanza, certo di lingua, ma costruita nei secoli, di tradizioni, di storia, e sono prodotti storici, per cui non si tratta di definirla a tavolino, secondo criteri come fosse l'esame del sangue, ce l'ha o non ce l'ha il Covid. La storia ha dimostrato che l'Ucraina esiste, un popolo ucraino si è creato mischiando molti fattori diversi, cosacchi, eccetera, eccetera. Si è creato anche perché l'Ucraina è stata per molti secoli nella federazione polacco-lituana, e tra l'altro, semmai il punto che si può porre è l'Ucraina e i ucraini e i bielorussi sono due popoli, ma anche lì è la storia. L'Ucraina era più sotto la Polonia, in questa federazione delle due nazioni dominanti, era più sotto la Polonia, la Bielorussia più sotto la Lituania, per cui si è mescolato con tradizioni, linguaggi, eccetera, di tipo baltico piuttosto che di tipo slavo-polacco. Ecco, quindi questa è la cosa. Allora, se questo è il quadro, Ucraina è una nazione, Lenin ha creato... Che posizione noi dobbiamo prendere? Noi abbiamo detto che dobbiamo prendere una posizione in difesa dell'Ucraina. Ma la NATO non preparava uno scontro con la Russia? Non è una reazione preventiva della Russia? Ora io credo che veramente basterebbe vedere gli argomenti usati per dire ma di che stiamo parlando. In ogni caso, il genocidio della popolazione russofona, dove, quando, come, quanti sono? Un presidente, alla avrebbero fatto presidente del Terzo Reich un ebreo, per favore, russofono, appunto, per di più, stiamo scherzando. C'era le truppe, eccetera. Allora, qui noi dobbiamo essere chiari. Sapete quanti aerei ha dato la NATO all'Ucraina in questi 30 anni? Zero. Sapete quanti carri armati ha dato la NATO all'Ucraina in questi 30 anni? Zero. E si sa perfettamente, perché come tutti possono leggere sui giornali, perché io non c'ero, ma i giornali ci sono, gli ucraini non possono avere rapidamente gli aerei e i carri armati nuovi della NATO e degli Stati Uniti per arrivare, perché non li sanno guidare, perché loro hanno ancora gli aerei dell'Unione Sovietica, quelli che gli erano rimasti dopo la divisione. Ma l'Unione Sovietica è morta non 3 anni fa, 31 anni fa, dal punto di vista, sono buoni aerei, ma dal punto di vista moderno sono dei ferri vecchi. Tant'è vero che oggi non gli stanno dando le cose nuove, stanno dando le cose nuove ai polacchi e ai rumeni, perché diano le loro cose vecchie dell'epoca del patto di Varsavia, quindi sovietiche, agli ucraini, perché quelle le sanno utilizzare, salvo cose nuove, più semplici, salvo addestramenti che ci sono in America, eccetera, eccetera. Ma insomma. E poi c'è l'altro fatto, che anche lì io non c'ero, ma tutti l'hanno raccontato, e non vedo, la Russia non ha mai smentito una cosa del genere. Quando c'è stato l'attacco a Kiev, gli americani hanno telefonato a Zelensky e gli hanno detto: guarda che se vuoi, ti veniamo a prendere, ti portiamo a Leopoli o addirittura in Polonia, alla faccia della guerra. E devo dire che, con tutto che sia, perché ovviamente è un nemico di classe, però siccome ogni persona c'è il nemico di classe che è un vile, gli ha risposto, diciamo, da comico, gli ha detto: non ho bisogno di un passaggio, ho bisogno di armi. Se lui avesse detto si scapuma, i russi a quest'ora avrebbero fatto la parata del 9 maggio a Kiev, eccetera. Quindi non è vero perché la NATO è buona, ma che cazzo c'entra di ragionamento vogliamo dire con questi ragionamenti? L'imperialismo segue le sue scelte. In questo momento non voleva confrontarsi con l'URSS. Lì il nemico è soprattutto la Cina nel Mar Cinese meridionale, e non solo meridionale. Taiwan, la via della seta e via dicendo. E dopo la sconfitta in Afghanistan, vuoi che un presidente che deve affrontare delle elezioni non brogli, come a differenza di Putin? Perché la differenza è questa. Putin rischia, perché alla fine il dittatore bonapartista, che vive anche di brogli, alla fine c'ha il complotto di palazzo, che dice: sono 2 anni che ci tiene in una guerra del cazzo. E noi dobbiamo sperare in questo, speriamo nel movimento di massa, ma ad ogni modo è possibile anche questo. Il presidente che ha la democrazia borghese, con tutti i limiti della democrazia borghese, perché noi siamo per la dittatura del proletariato, però deve affrontare gli elettori. Si va a fare rischia un'altra sconfitta come l'Afghanistan perché vinca gli altri? È certo che sono molto più cauti, mentre sulla Cina e su Taiwan la cosa è evidentemente più chiara. Quindi oggi per noi non si tratta di una guerra interimperialista, e andando verso le conclusioni, scusate la lunghezza, ma volevo precisare un po' bene la nostra posizione, perché in Italia è poco comprensibile, in Francia sarebbe comprensibilissimo. La CGT ha mandato il sostegno ai sindacati ucraini ed è per il ritiro delle truppe russe, la CGT di stalinista origine. Ma in Italia il dominio del maoismo, stalinismo e anti-americanismo, in fondo sciovinista nazionale, fa sì, quelli, nemico del mio nemico e mio amico, no? E quindi, siccome volevo chiarire bene, ritorna la cosa di Lenin del 15. se la guerra della Serbia contro l'Austria-Ungheria fosse stata una guerra isolata, il compito dei socialisti ineliminabile sarebbe stato di sostenere la Serbia, anche la borghesia serba. Però non è stato così. Allora noi diciamo, il primo reparto di Marines che entra in guerra effettivamente, che non è la stessa cosa dell'aiuto militare, se no dovremmo dire che, visto per quanto riguarda, abbiamo fatto l'esempio della Etiopia, dovremmo dire che in Italia l'Italia e la Germania nazista erano in guerra nel 1935. Siccome c'erano tensioni tra i due paesi sul Brennero, chi ha dato le armi, il più grande fornitore di armi all'Etiopia? 1 milione di fucili e 100 milioni di cartucce, che all'epoca insomma non c'erano i lanciarazzi come oggi. La Germania hitleriana. Allora c'è stata la guerra? No, evidentemente. Ogni paese, Lenin lo spiega, ci potremmo fare, terrei 2 ore a fare citazioni di Lenin, che spiega la cosa principale, parla persino dell'intervento francese nella guerra di indipendenza americana, dice era secondario perché l'elemento essenziale non era come nella guerra dei 7 anni precedente, che si scontravano per le colonie Francia e Inghilterra, ma che i francesi appoggiavano una guerra di indipendenza progressiva. Persino questa ci dà, nel 16, No, forse proprio nel 15, nello stesso tetto. Quindi, no, non già, la guerra è la guerra. Del resto, basta guardare il Kurdistan. Gli esperti militari americani ci sono dalla prima guerra del Golfo, dagli anni 90, dai primi anni 90 con i curdi. E addirittura, e lì certo, noi lì, che abbiamo sempre, questa almeno è stata la posizione ufficiale che prendemmo, molto a controcuore, quando addirittura sono intervenuti materialmente nella guerra le truppe americane e i curdi gli si sono messi a fianco, noi abbiamo detto che a quel punto non potevamo non tenere una posizione disfattista bilaterale, perché se i curdi combattono anche con 10.000 come si chiama, 10.000 forse un po' troppo, 1.000 sostenitori addestratori americani con le armi americane, con la no fly zone eccetera, Assad, siamo dalla parte dei curdi. Ma se i curdi si mettono con le truppe americane, non dico che stiamo con Assad, perché sarebbe assurdo, ma non stiamo né con l'uno né con l'altro, diciamo che è un grave errore. E quindi noi oggi non abbiamo un disfattismo bilaterale, lo avremmo in caso di guerra effettiva, l'abbiamo detto, ma per il momento non ci sono indicazioni di questo tipo. Siamo contro le sanzioni perché sono cose tra capitalisti, a parte vabbè, se uno gli ritira lo yacht del magnate, che cazzo ne frega, voglio dire, ma le sanzioni in generale, uno, colpiscono il popolo russo, ucraino, occidentale e del mondo, si è visto anche con la cosa del grano. E tra l'altro, dal punto di vista, questo non lo capiscono gli ucraini, della lotta contro un regime, se c'è qualcosa che rafforza un regime è le sanzioni, normalmente, poi insomma la storia, cioè, non c'è mai stata tanta fiducia in Mussolini come al momento delle sanzioni, perché il popolino, anche il settore di classe operaia, diceva cazzo, quelli c'hanno le colonne, noi vogliamo le nostre. Naturalmente c'era pieno di razzismo verso i negri, come si diceva allora, i neri come diremo oggi, o gli africani come diremo oggi, e quindi dice, gli inglesi fanno le sanzioni loro, e loro, è chiaro che a buon gioco Putin e i suoi di dire loro che sono intervenuti in Iraq, in cosa si dimenticano che all'inizio c'erano pure loro in Iraq nel 91, ma vabbè, in Iraq, in Siria, e poi ci fanno le sanzioni a noi. E perché non le fanno a qualche altro? Non possono dire a Israele, perché anche loro inciucciano con Israele, ma è ovvio, quindi Israele è al di sopra di tutti. Però evidentemente c'è questa situazione assurda. Siamo per le armi. Noi abbiamo una posizione che è quella di dire no alle sanzioni, e poi che l'Ucraina può prendere le armi per noi dove le può trovare. perché è chiaro che non c'è parità. Se uno dice sono contro che l'Ucraina si armi, dice, e quel mezzo matto con gli occhi stralunati del professor, come si chiama? Orsini. Alla fine, nella sua mezza follia, alcune cose le dice giuste, perché si dice a questo punto si arrendano. Del resto, il portavoce, che mi fa sempre ridere perché deve essere un disgraziato, magnone, eccetera, di prima cotta, il portavoce, quello con i baffi, anche lì adesso sfugge il nome del Cremlino, ha detto, dice no, ma noi siamo pronti ad aderire, basta che il governo ucraino dica al suo esercito di non combattere più, e beh, grazie al cazzo, vuol dire, scusate il termine che mi è sfuggito, vuol dire resa senza condizioni. E questo noi non possiamo proporlo. Vuol dire che noi facciamo campagna per l'armamento, perché l'Italia mandi armi? No. Noi abbiamo detto che se avessimo un parlamentare non voterebbe a favore. A seconda della cosa vedrebbe se non partecipare al voto, ma non certamente no, perché siamo in un paese della NATO imperialista, quindi non è compito nostro. Però quelli che fanno il boicottaggio è una cosa diversa, perché fare il boicottaggio dell'invio delle armi, a parte il fatto che l'hanno fatto quei 100 portuali di Genova, che sono gli stessi che hanno fatto lo sciopero contro i vaccini e le mascherine, purtroppo li conosciamo, purtroppo nel senso che sono anche alcuni bravi compagni, ma perso tutta la cosa, si pongono su un terreno sbagliato. Fossimo in un paese non della NATO e non imperialista, non ci abbiamo pensato, ma potremmo porci il discorso di dire il Messico vuole dare delle armi, se ce le ha, poi il problema è che non ce l'ha da dare. Però guardate che gli aerei, la NATO, moderni, li ha dati a tutti i paesi, tutti i paesi significativi, non avversari, certo non li ha dati al Venezuela, c'hanno gli aerei moderni, quello che la NATO non ha dato all'Ucraina perché ce l'aveva con gli ucraini, per evitare il rischio di una guerra con la Russia sull'Ucraina. Questo è evidente. Noi abbiamo invece qui un insieme di pacifinti, pacitonti e semiputiniani. Pacifinti sono come quella Lazzarone, scusate, anche se io qualche amicizia di vecchio tempo, ma va detto di Ferrero, il quale in TV, no, la pace, questo Zelensky fa morire la gente. Scusami, perché tu hai votato il finanziamento alle guerre in Afghanistan e in Iraq? Perché hai cacciato dalle liste di rifondazione Marco Ferrando, perché ha detto che la resistenza irachena aveva diritto di difendersi con le armi anche nei confronti delle truppe italiane? E tu oggi vieni a fare il pacifista perché non sei al governo. Fossi al governo diresti, anzi, bombardiamo Mosca se gli interessasse per avere un secondo ministero. Pacitonti come il mio amico Cremaschi, che veramente è lì alla pace, come i pacifisti della prima guerra mondiale, però in una situazione diversa. Lenin, c'è tutta la polemica dei pacifisti, dice quello che ci differenzia dai pacifisti, che noi riteniamo anche in questa guerra che alcune guerre siano progressive. E del resto, nonostante il fatto che le armi le avesse dato l'imperialismo tedesco, Lenin, anche contro gli ultrasinistri come Radek e Rosa Luxemburg, in definitiva ultrasinistri, su questa questione era per il sostegno alla rivolta di Pasqua irlandese, anche se era aiutata dall'imperialismo tedesco, su cui era ovviamente contrario nel quadro del disfattismo bilaterale. Poi c'è una massa di semiputiniani, che appunto sono quelli che pensano che in definitiva l'imperialismo nemico è solo quello, c'è un solo imperialismo nei fatti, quello americano, che opprime anche noi, e per ricostruire la nostra indipendenza noi dobbiamo stare con tutti quelli che sono anti-americani, e per di più Putin, in quanto anti-americano e in quanto più o meno erede della vecchia Unione Sovietica, è qualcosa di positivo. Come possa essere positivo uno che fa le elezioni truccate, blocca lo sviluppo del movimento sindacale, ha un regime bonapartista? Io non lo so, e credo che quindi, come diceva una volta Bebel, riprendendo altre parole, riprendendo una frase precedente, forse già di Engels, l'antisemitismo è il socialismo degli imbecilli, mi verrebbe da dire oggi l'antiucrainismo è il comunismo degli imbecilli, perché non capiscono niente della realtà del mondo come si è sviluppato. Andiamo verso una terza guerra mondiale. Il rischio c'è, probabilmente non sull'Ucraina, anche se nessuno può negare mai la cosa. Più possibile sul terreno di Taiwan, anche se lì Xi Jinping non è Putin e non pensa di ristaurare la dinastia Manciù, tanto meno Manciù che erano pure stranieri, ma neanche quella dei Ming, che erano invece cinesi. Però il rischio c'è, perché le contraddizioni interne, cioè l'equilibrio mondiale che si era creato tra un quadro di paesi imperialisti dominati militarmente, perché questo era vero, dagli Stati Uniti per la sua forza, e dall'altro un brocco di stati operai burocraticamente degenerati, stalinisti, sull'equilibrio del terrore, è saltato. Ed è saltato non come pensava il famoso Fukuyama, la fine della storia in senso positivo. No, è finito un pezzo di storia e ricominciato un'altra in cui il rischio di esplosione, se non ci fosse il pericolo nucleare, probabilmente già ne avremmo già delle visioni. Ma oggi è più plausibile un rischio di guerra mondiale dell'epoca della cosiddetta guerra fredda. La necessità è una sola, quella dell'alternativa socialista internazionale. Sia ben chiaro, quando noi diciamo, e concludo veramente, che sosteniamo l'Ucraina, noi non sosteniamo Zelensky, ma non solo. Noi, come eredi della concezione leninista e trotskista della rivoluzione permanente, leninista nella pratica e trotskista nella teoria poi anche, della rivoluzione permanente, poniamo il problema che nel corso stesso della guerra si costruisca un'opposizione a Zelensky. Questo vale per tutti gli altri paesi che fossero in una situazione analoga. Era il discorso che negli anni 20, poi calunniato dalle stalinisti, non volete difendere il paese, Trotsky definì la linea Clemenceau. Clemenceau era un politico ex sinistro, radicale di sinistra, piccolo borghese, diciamo, della fine del secolo, che si era spostato a destra e diceva che il governo francese era incapace di condurre una guerra seria contro la Germania. E quindi costruì man mano un'opposizione, in quel caso parlamentare fondamentalmente, ma con l'appoggio di militari, che portò in Parlamento a un voto di sfiducia verso il governo nel 1916, mi pare, verso il governo esistente. Ci fu quindi Clemenceau, detto appunto la tigre, che prese la linea. In questo caso ci parliamo non solo di un cambio di governo all'interno dello stesso regime, ma della rivoluzione. Il punto è che la situazione è molto difficile, in Ucraina più che in Russia, perché c'è il sentimento nazionale di una popolazione oppressa, perché le forze di estrema sinistra sono minori, benché siano molto piccole anche in Russia, minori in Ucraina che in Russia. E quindi questo è un discorso difficile. Ma certo noi non condividiamo e non condivideremo quelle posizioni che dicono oggi con Zelensky, domani no. Oggi non con Zelensky, oggi contro i russi, ponendo il problema di un'alternativa di governo da costruire. E in Russia oggi per il ritiro delle truppe russe e per una giusta pace, non con Putin ma rovesciando Putin e con un governo operaio che è l'unico che potrebbe realizzare nel quadro di una prospettiva alternativa socialista internazionale, se non magari io no che sono vecchio, ma qualcuno dei qui presenti che è più giovane di me rischia veramente di vederla e di pagarne le conseguenze. Vi ringrazio, mi scuso della lunghezza, ma volevo essere in questa ora e 10 preciso su tutti gli aspetti della questione per come noi la vediamo. Sperando di non avervi ammazzato, visto che nessuno viene ad aiutarmi qui a presiedere, faccio io quello. Se dico, c'è qualcuno che chiede di intervenire? Vadi, vieni qua però. Combattere in Ucraina sia anche una guerra per l'autodeterminazione, per l'indipendenza. Esiste, esiste questo, è chiaro. Dico che però non è questo l'elemento predominante. Io come elemento predominante vedo invece una lotta tra due imperialismi. Imperialismo NATO, ce l'abbiamo in casa, ricordiamoci, nemico principale in casa nostra, ma anche perché è il più forte, perché l'imperialismo russo, secondo me, è un imperialismo di media potenza. E se dal punto di vista economico, certamente dal punto di vista militare è molto forte, ma è sempre secondario alla potenza americana, alla potenza NATO. E quindi, voglio dire, io ci vedo appunto questa battaglia principale tra due imperialismi, uno, la NATO, l'Europa, l'imperialismo europeo che vuole che l'Ucraina cade nella sua zona di influenza per lo sviluppo dei mercati, per il soggettamento politico, economico dell'Ucraina. E la Russia, perché naturalmente anche lei vuole che l'Ucraina sia nel suo campo, quindi nel campo, anche perché non è un aspetto ideologico. Ricordiamoci che il Donbass è una zona, una regione ricca, dove ci sono le miniere di carbone, ci sono altre miniere, c'è una grossa industria, ci sono delle grosse industrie anche che lavorano l'acciaio. Voglio dire, è una zona più importante, più ricca dell'Ucraina. Quindi non è un caso che per lì che si combatte, no. Perché tutti vogliono, ci vogliono mettere le mani. Quindi è vero, oggi la NATO, l'Europa non partecipa con propri uomini, è vero questo, ma questo non toglie che sia una guerra imperialista, cioè non è che se non ci mandi uomini però ci dai tutti i mezzi militari disponibili, è vero, non saranno le più avanzate perché le più avanzate gli danno alla Polonia eccetera eccetera, sì, però glieli danno, ma forse sono anche interessati a far proseguire questa guerra per lungo tempo per indebolire la potenza russa. Cioè io un mio avversario, se lo tengo impegnato in guerra, questo dovrà dedicare tante risorse economiche e lo dissanguo, lo metto KO, no? E quindi potrebbe essere anche una strategia. Quindi è chiaro per me, lo scontro, anche se non avviene con uomini della NATO, dell'Europa, sul campo, o meglio, non ci sono, ci sono anche i volontari poi, i volontari che si tolgono magari la casacca militare e si mettono quella di volontario, no? Non è che ci sono anche quelli. Comunque, formalmente non ci sono divise militari. Ma questo non toglie, ripeto, perché possono, non ci sono però le armi, gli addestratori, alla fine glieli mettono in campo. E quindi per me è una guerra tra due imperialismi, ripeto, anche se il problema dell'autodeterminazione esiste, non è che esiste anche nell'epoca dell'imperialismo, perché negarla sarebbe un errore, no? Voglio dire, la Catalogna ce lo sta lì a dire, la Catalogna, cioè, la Spagna è un paese imperialista, eppure nel suo seno c'è questa regione che vuole rivendicare l'autonomia. E quindi esiste, non va negata. E quindi, allora, però l'aspetto principale, ripeto, è quello di una lotta tra imperialismi. E allora qual è la posizione che i comunisti dovrebbero assumere? È, secondo me, il disfattismo bilaterale, nel senso di mettere in campo tutte quelle azioni atto a boicottare l'invio di armi, atto a boicottare la guerra. Naturalmente noi, per quel che ci riguarda, siamo in Italia, dovremmo agire in Italia, non è che possiamo boicottare l'invio di armi Non è che possiamo andare in Russia. Voglio dire, noi per quanto ci riguarda dovremmo boicottare, e io sono d'accordo con quelle iniziative di Genova, saranno stati pochi, oppure tutto quello che vuole, ma noi dovremmo incentivare, o meglio, soprattutto dovremmo anche dare un seguito allo sciopero del 20 di maggio, che è stato uno sciopero indetto dal sindacalismo di base, che era uno sciopero contro la guerra. E noi dovremmo, ecco, purtroppo, dopo quella data, per quanto non è stato uno sciopero grandioso naturalmente, però era abbastanza limitato, però era significativo. Dopo quella data non c'è stato più un qualcosa che desse un prosieguo, che desse dicesse che ancora il movimento era in piedi, che voleva combattere contro la guerra. Purtroppo non c'era, non c'è stato, ma secondo me è quella la strada maestra. Che il proletariato scenda nelle piazze a rivendicare la fine della guerra, a rivendicare il miglioramento, che la guerra, i costi della guerra non li vuol pagare, perché naturalmente è chiaro che i costi della guerra non li paga certo Draghi né la borghesia italiana né quella mondiale, anzi dalla guerra si arricchisce, ma quelle che li paga è sempre la classe operaia, i lavoratori. E quindi bisogna partire appunto dalle condizioni di vita dei lavoratori per lottare anche contro la guerra, perché le due cose sono legate in modo indissolubile, quindi è chiaro, questo è chiaro a tutti. E, sì, quindi questa è la mia posizione, un po' diversa di quella del relatore di Franco, di questo sono convinto. Vabbè, anche ecco, niente, io avrei finito quindi. Renato Pomari. Scusate, c'è qualche cosa da bere lì? Solo birra? Solo birra? Hanno solo birra? Se c'è qualche bibita qualsiasi? Sì. Scusami, Renato, ma... No, io condivido l'impostazione che ha dato Franco. Anzi, tu nella tua lunga esposizione, secondo me, ti sei dimenticato, esaltato anche alcuni particolari che la rafforzerebbero. Nel 2008 c'è stata una piccola guerra dimenticata, che è stata una parziale invasione della Georgia e l'annessione e dell'Abkhazia e dell'Ossetia del Sud. Una guerra che è stata una guerra di grandi massacri proprio di civili, è durata 15 giorni nel mese di agosto. Putin ha potuto agire indisturbato, ha occupato queste due repubbliche cosiddette autonome della Georgia, poi a un certo punto forse voleva anche andare avanti, poi si è fermato, ed era già un segnale. Il segnale, tu hai detto una cosa secondo me molto vera e fondata, la volontà di occupare tutta l'Ucraina, anche perché se riuscisse in questo intento, o perlomeno nell'intento di annettersi tutta l'Ucraina meridionale, avrebbe, come dire, il dominio sulla costa nord del Mar Nero. E sarebbe un grosso asso nella manica, soprattutto per contrastare quello che è un suo alleato nemico della NATO, che è la Turchia, che controlla la costa sud del Mar Nero e che ha una posizione ambigua in tutta questa situazione, che sarebbe poi interessante sviscerare. No, non è una guerra tra imperialismi finora, perché la NATO Finora poi i rischi ci possono essere in seguito, e questo non abbiamo l'effetto di salami sugli occhi, ma lo sappiamo benissimo che l'evoluzione della guerra può portare a conseguenze anche molto più pesanti. Ma non è una guerra tra imperialismi, e lo dico perché fino a poche settimane prima dell'invasione dell'Ucraina, uno che è molto importante, che è il presidente Macron, diceva che la NATO era un cadavere, e la discussione all'interno tra gli stati appunto della NATO era quella piuttosto di creare la difesa unica europea e di pensionare la NATO. Quindi la NATO proprio era completamente fuori da questo. C'era anche, e per questo c'è stato anche negli Stati Uniti, come dire, un tentennamento, perché c'era una divisione tra quello che pensava il Pentagono e quello che pensava la Casa Bianca, e che i servizi del Pentagono dicevano: guardate che vuole invadere l'Ucraina, anche se sembra che abbia un numero ridotto, ma un numero ridotto perché non vuole la mobilitazione generale, perché sa che con la mobilitazione generale dovrebbe dichiarare la guerra e si metterebbe a rischio, manda i soldati delle popolazioni asiatiche dicendo: guardate, date lì 3 giorni e fate le esercitazioni e tutto finirà in 3 giorni, perché pensava di risolvere così la situazione. E la Casa Bianca che diceva: no, non ci sarà nessuna invasione. Tant'è vero che poi Biden dice a Zelensky: se vuoi ti veniamo a prendere e ti portiamo in salvo. E lui dice: no, non voglio un taxi, non ho bisogno di un taxi. Ecco, questa è la situazione attuale. Poi è chiaro che il quadro può cambiare, in parte è anche cambiato, perché l'ingresso della Svezia e della Finlandia nella NATO ha iniziato a cambiare un po' la situazione, ma finora non possiamo dirlo. Che cosa vogliono gli Stati Uniti da questa situazione? Meno gli europei, perché l'Italia, la Francia e la Germania vivono con molto fastidio e con molta preoccupazione questa guerra. Magari gli Stati Uniti vogliono, come dire, più che altro un permanere di questa situazione. Ma non è escluso che se Putin dovesse prevalere sul piano militare, siano quelli che dettano le condizioni a Zelensky di una resa o di una qualunque condizione di fine della guerra. Perché? Perché gli Stati Uniti e la NATO ancora su questa guerra, per fortuna, io dico, per fortuna non hanno investito, perché poi gli Stati Uniti hanno altri interessi che sono quelli del Pacifico. Finora. Poi è chiaro che la situazione è in evoluzione e su questo noi non è che abbiamo una posizione fossilizzata, che diciamo fino in fondo questa. È chiaro che è una posizione che poi valuteremo sempre nella dinamica del conflitto. Ma io mi sento di dire che è un conflitto fra i imperialismi, in questo senso, perché la guerra è stata voluta dalla Russia, e poi qualcun altro, l'Ucraina è un paese invaso, e qualcun altro in questa situazione gioca un po' le sue carte, ecco, ma non ha certamente voluto questo. Poi chiaro, paese particolare come la Turchia gioca particolari interessi per conto suo addirittura, e quindi certo, anche creando dei problemi alla NATO, agli uni agli altri. Esatto. Altri compagni o compagne? Prego, non ti vedo, chi sei? Io mi chiamo Michele. Prego Michele, accomodati. Io durante la tua relazione non l'ho sentita tutta perché sono arrivato in ritardo, però mi è sembrato che venisse omessa la situazione che si è venuta a creare dallo scioglimento dell'ex Unione Sovietica con la NATO, nel senso che è stata omessa tutta questa operazione che ha la sua importanza. Putin è stato un fervente alleato nel G7 e all'interno del G20, ha avuto un ruolo anche nel G7 perché sperava che dal punto di vista della sua logica imperialista, perché sono imperialisti anche i russi, ci fosse un po' di riguardo rispetto ai loro confini. Qui abbiamo assistito nell'arco di 20 anni che tutto il blocco ex patto di Varsavia è stato annesso alla NATO. Quindi ha creato una situazione che Putin non perché voglia difendere Putin e il suo imperialismo, per carità, però Putin ha sempre messo in evidenza questo aspetto. E quindi però non è mai stato tenuto conto, anzi qualcuno addirittura si è speso, Biden nel passato, Clinton e tutta questa gente qua hanno fatto affari con loro, con i russi, l'Europa, Prodi, i tedeschi, la Francia, hanno fatto affari, no, con questi qua. Quindi il problema di fondo è che l'imperialismo russo è da anni che critica questa situazione qui ed è arrivata al punto che è diventato un paese invasore, no? Perché? Perché vuole mettere in chiaro questo aspetto qua. Anzi, addirittura la NATO ha rincarato la dose annettendo Svezia e Norvegia dentro la NATO. Quindi hanno fatto un cerchio completo attorno alla Russia. Questi qui, almeno dal punto di vista dei suoi confini europei, sono ingabbiati. E questo aspetto va considerato, non va omesso o non va criticato. Ma no, è così purtroppo. Perché tutti ragionano, tutti, anche i cinesi, con la loro Formosa, con i loro... fanno di tutto per aprirsi degli spazi, come lo fa Erdogan con i suoi vicini, no? E poi il fatto che si omette la storia dei curdi. I curdi, io mi ricordo le manifestazioni che abbiamo fatto a sostegno del popolo curdo che combatteva contro l'ISIS e tutto, va bene, erano aiutati dagli americani. E con ciò? Però poi abbiamo visto, soprattutto in questa fase qui, col discorso dell'Ucraina, che i curdi, qualche commentatore dice, è un sacrificio necessario se vogliamo salvaguardare i nostri interessi. Allora, assumere tutte queste posizioni qua, secondo me, mi puzza un po' di convivenza con la NATO, perché se non si sollevano critiche di questo genere, vuol dire che si è d'accordo con quello che si sta operando. Il fatto di definire i pacifisti nei tre modi in cui li hai definiti tu è errato, sbagliato, perché non si può essere d'accordo nell'armare e nel gonfiare quello che sta facendo la NATO, perché alla NATO interessa che la guerra continui, che il popolo ucraino venga massacrato dall'imperialismo russo. Perché? Perché salvaguardare i loro interessi. Tutti questi aspetti qua strategici non vengono considerati. Quindi, tu hai fatto cenni storici al passato, delle varie posizioni che il partito bolscevico prese nei diversi conflitti, ma lasciamo perdere queste cose qua, perché a un certo punto, se veramente si vuole ci sia un'azione a sostegno del popolo ucraino e del popolo e anche dei russi, perché bene o male sono carne da macello anche loro, lo si è detto, ha utilizzato tutti i soldati delle repubbliche asiatiche. Perché? Perché hanno il problema di non dover massacrare i loro soldati, no? Tutte queste cose qua devono essere considerate. E mi sembra in modo sbagliato questo qui esercitato questa sera qui, insomma. Non lo condivido, ecco. Chi è? Non ho visto. Non vedo. Venite, dite il nome. Avanti, avanti. Puoi parlare di qua, mica ti picchiamo. La guerra in Ucraina è stata provocata da decenni di espansionismo degli imperialisti dell'Unione Europea, tra cui il nostro imperialismo, quello italiano, e della NATO, che si sono divorati tutti gli ex stati operai deformati dell'Europa dell'Est. La guerra in Ucraina è una guerra reazionaria da ambo i lati. Il governo ucraino sta combattendo per conto dell'Unione Europea e della NATO per assoggettare il suo paese a queste potenze imperialiste. Il governo russo, un governo capitalista, non imperialista come dite voi, Repubblica e Draghi, sta combattendo per assoggettare l'Ucraina, mantenerla nella sua sfera di influenza. Noi facciamo appello agli operai russi e ucraini a prendere le armi che gli danno, fraternizzare, fucilare gli ufficiali dell'esercito di Zelensky e quello di Putin e fare come i loro genitori nell'ottobre del 17 perdendo il potere. La rivoluzione proletaria è l'unica via d'uscita pacifica e giusta dalla guerra in Ucraina. E questo è doppiamente vero in Italia, un paese dove il governo Draghi e tutti i partiti parlamentari stanno facendo gli straordinari per armare fino ai denti l'Ucraina, per boicottare la Russia, per sostenere la vittoria dell'Ucraina, la sua, tra virgolette, indipendenza, cioè il diritto a sfruttarla a sangue, per sconfiggere le truppe russe, per ricacciarle ai confini voluti dagli accordi di Minsk, in questo siete d'accordo, e per dare una autonomia, tra virgolette, alle popolazioni russe del Donbass, ma all'interno dei sacri confini dell'Ucraina. Questo è quello che vogliono le potenze della NATO, il governo italiano è quello che rivendica il PCL ogni giorno. Ferrando è andato su Repubblica a ripetere che chiunque si opponeva alla guerra, all'invio di armi in Ucraina era un rossobruno, che la Russia era una potenza imperialista, zarista, che voleva mangiare il mondo, cosa che hai ripetuto tutta la sera, e che chiunque si oppone a queste forze deve essere considerato un pazzo, un demente, un tonto. Questa è una politica di fare da megafono al governo Draghi, agli imperialisti della NATO e dell'Unione Europea nel movimento operaio. Fortunatamente nella classe operaia italiana è esistito un sentimento, anche se minoritario, a boicottare l'invio di armi all'Ucraina. Noi rivendichiamo, appoggiamo e nei limiti delle nostre capacità abbiamo partecipato a queste azioni ed è quello che ogni comunista sano dovrebbe fare, anche se queste azioni sono dirette da forze riformiste, pacifiste, che cercano a loro volta di disarmare la classe operaia, predicando il disarmo, le soluzioni diplomatiche e l'alleanza con i preti, con i giudici. E diciamo che i giudici, preti e parlamentari borghesi devono essere sbattuti fuori dalle mobilitazioni per il boicottaggio di armi all'Ucraina. Ma il PCL cosa cazzo sta facendo? Quello che ha fatto è usare la sua piccola influenza nel movimento operaio per cercare di sabotare queste azioni. Addirittura in quel blocco putrido di riformisti nella CGIL avete fatto gli straordinari per fargli cancellare l'opposizione all'invio delle armi dalla loro mozione riformista. E tutto questo, nel mio linguaggio, si chiama social sciovinismo, cioè sciovinismo filo imperialista nei fatti, mascherato da delle citazioni di Lenin che non sono altro che una prostituzione dell'internazionalismo rivoluzionario. Il disfattismo rivoluzionario è l'unica politica che può far avanzare il proletariato oggi, in Ucraina, in Russia e nel resto del mondo. È una politica necessaria e possibile. La rivoluzione proletaria è posta all'ordine del giorno dalla situazione moderna. Quello che manca è un partito rivoluzionario. Questo partito rivoluzionario noi lottiamo per costruirlo sulla base del leninismo e dell'internazionalismo proletario. Voi lavorate per distruggerlo sulla base del social sciovinismo, come hanno fatto tutti i vostri antenati nella storia. Ah. Amen. Chi vuole? Ah, Natale. Adesso sì che dopo aver bevuto mi sento meglio. Grazie. Io credo. Quando si parla della guerra tra la Russia e l'Ucraina, bisogna fotografare quella che è la realtà. senso, fino a prova contrario, la realtà non è che la possiamo creare con la nostra fantasia, ma ce la danno i dati quotidiani. Ovvero il 23 febbraio la Russia, una potenza che fino a prova contrario, fino ad oggi, qualcheduno riteneva una potenza di prima categoria, ha invaso un paese, l'Ucraina, che fino a prova contrario era un paese piazzato lì, è sempre stato lì, ai confini con la Russia. L'Ucraina come Stato a sé non è mai esistito, l'esistenza, lo sappiamo, ha detto prima bene Grisolia, gliela data la rivoluzione bolscevica, e questa rivoluzione bolscevica, con l'autodeterminazione delle nazioni, ha fatto sì che il problema fosse posto realmente all'ordine del giorno, perché l'autodeterminazione delle nazioni non era valida soltanto nel tempo in cui la borghesia doveva regolarmente affermarsi come classe dominante, ma è un principio che vale ancora oggi. Qualcheduno citava la Catalogna. Se vale per la Catalogna, non si capisce perché non debba valere per l'Ucraina. L'Ucraina è un paese aggredito, non è un paese aggressore. L'Ucraina non è un paese imperialista. Al contrario, mi sembra che il capitalismo ucraino non sia un capitalismo che esporta capitale finanziario, non sia un capitalismo che esporta prodotti finiti, non sia un capitalismo che possiamo elencare fra i capitalismi che concorrono alla spartizione del mondo. Se poi qualcheduno vede un film diverso, lo può e lo viene a raccontare qui. Qual è il film diverso che qualcheduno continua regolarmente a vedere? L'idea che all'Ucraina gli arrivino le armi, e se gli arrivano le armi è quasi indispensabile e necessario che la guerra assuma un carattere diverso, perché l'Ucraina è appoggiata da un campo diverso, il campo della NATO. Fino a prova contrario, l'Ucraina ha la forza di difendersi da sola contro la Russia. Quando l'Unione Sovietica è scomparsa, quando l'Ucraina è nato come paese, complessivamente l'Ucraina da sola, mantenendosi le testate nucleari che erano ereditate dall'Unione Sovietica, sarebbe stata la terza potenza nucleare del mondo dopo gli Stati Uniti, la Russia, ci sarebbe stata l'Ucraina. L'Ucraina ha rinunciato all'armamento nucleare e si è disarmata. Di fronte a una prepotenza di questo tipo, che non è che c'è stato un conflitto fra uguali, non è che l'Ucraina ha scatenato una guerra contro la Bielorussia, quindi Bielorussia e Ucraina hanno la stessa forza, se la vedono fra di loro. No, c'è stato un paese che fa una politica di potenza imperiale. Io lo ribadisco, non è una politica imperialista, è una politica di grande potenza, come d'altra parte la Russia nella sua storia ha sempre fatto. Se ben uno dice ai citazioni, la Russia oggi svolge la stessa politica nei confronti dei paesi limitrofi che svolgeva lo zar, quindi fino al 1917, lo zar nei confronti dei paesi vicini. La situazione era talmente tanto radicata che un certo signore con la barba bianca e i capelli, no, all'epoca aveva la barba nera e i capelli neri, quando nel 1848-49 c'era in corso la rivoluzione in Germania, scrivendo sulla Nuova Gazzetta Renana, Karl Marx, non uno qualunque, diceva in maniera esplicita che la Germania rivoluzionaria, come primo elemento, avrebbe dovuto fare una guerra preventiva contro l'orso bruno russo. E perché questa guerra preventiva contro l'orso bruno russo? Perché l'orso bruno russo in quegli anni rappresentava la reazione esplicita nei confronti di tutti i popoli che si affacciavano nelle sue vicinanze. Questa funzione lo Stato russo l'ha esclusivamente limitata nel periodo della rivoluzione d'ottobre, vale a dire dal 17 al 27. In questi 10 anni i paesi limitrofi erano paesi che complessivamente venivano regolarmente appoggiati e supportati dall'esperienza rivoluzionaria del nuovo Stato sovietico. Quando lo stalinismo si impone nei confronti dei paesi limitrofi, ha ricominciato a muoversi in un'ottica neo-zarista. L'Ucraina era la terra potenzialmente ricca di attività agricole, era la terra dei grandi culacchi, era la terra che ha subito lo sterminio negli anni 30 della cosiddetta borghesia culaca, che poi ha fatto milioni e milioni di morti. Io sfido chiunque, dopo aver fatto esperienze di questo tipo, a verificare quello che succede nella realtà di tutti i giorni. Se io oggi fossi in Ucraina e fossi militante di un partito rivoluzionario, cosa dovrei fare secondo voi? Prendo le armi e difendo il mio territorio. Non difendo Zelensky. Difendo il mio territorio e potenzialmente, mentre difendo il mio territorio, mi preparo a usare il fucile contro Zelensky. Chiaro? Perché è questo che mi hanno insegnato nello studio che qualcheduno ogni tanto ha fatto. Chiaro? Perché la realtà non è la realtà che ho in testa io, è la realtà che mi si presenta davanti. E la realtà che mi si presenta davanti è quello che in Ucraina io oggi come oggi sarei al fronte a difendere la mia terra. Come se qualcheduno entra a casa mia, mi dà un cazzotto e mi dice te ne devi andare perché qui ci voglio stare io. Non funziona così. Non può funzionare così. Perché l'autodifesa dei popoli che vogliono affermare la loro autonomia e la loro indipendenza è un atto dovuto. E se poi mi arrivano le armi dalla NATO, non è che io sto a guardare da dove arrivano le armi. Se nel 1936-39, durante la guerra civile spagnola, al POUM, al Partito Obrero d'Unificazione Marxista, fossero arrivate le armi degli inglesi o dai francesi, cosa avrebbero dovuto fare i miliziani del POUM? Rimandarli al mittente o prendersi le armi e battersi contro i fascisti? Che il problema è la realtà. E uno si trova calato nella realtà. Si fa in fretta a dire è un conflitto interimperialistico. Ma quando la NATO interverrà militarmente nel conflitto, lo catalogheremo per quello che sarà. Oggi sono le intenzioni che noi vogliamo andare a colpire. È chiaro che la NATO, come tutti i paesi del mondo, si muovono facendo regolarmente i loro interessi. Però dobbiamo inquadrarlo il problema. Il problema è l'Ucraina e la Russia. Nel 1916, quando i tedeschi hanno mandato le armi all'Ira per organizzare l'insurrezione di Pasqua, l'insurrezione di Pasqua mirava all'autodeterminazione del popolo irlandese. Le armi gli arrivavano dai tedeschi, che le rimandavano con l'aereo, con le navi, dicevano non le vogliamo. Se ci dovesse essere un movimento rivoluzionario in Italia e portarsi improvvisamente la classe operaia, visto che è lì la rivoluzione dietro l'angolo, al potere, e l'Italia fosse accerchiata da potenze avversarie e improvvisamente avessimo bisogno di armi, che andiamo a chiedere da dove ci arrivano? No, c'entra. Se tu che non capisci un cazzo, come non capisci un cazzo la tua organizzazione politica. Perché di Lenin e di Trotsky, fino a prova contraria. Nessuno ti ha interrotto, compagno. Fino a prova contraria, di Lenin e di Trotsky avete capito poco. Perché niente. Quando il compagno Grisolia vi cita il 1914 sulla risoluzione di Lenin sul conflitto austro-ungarico-serbo, non fra il blocco occidentale, il blocco cosiddetto democratico, il blocco imperiale, fra la Serbia, che non era un paese imperialista, e l'Austro-Ungheria, che era un paese imperialista, e nel primo periodo, complessivamente, ci si pone il problema di difendere la Serbia, di appoggiare la Serbia, segno che o non l'avete letto, o segno che volete vedere una realtà totalmente diversa. La nostra posizione è una posizione che si muove in linea con quella che è la tradizione, non di Lenin e basta, ma di Marx e di tutto quello che è stato il movimento rivoluzionario fino ad oggi. Chi ha un'altra posizione la può venire a raccontare, ma deve raccontare quella che è la realtà. Io non posso venire a dirvi l'Ucraina, qualcheduno, vogliamo ammettere il diritto all'autodifesa dell'Ucraina? Se non glielo vogliamo ammettere, allora risolviamo subito il problema. Ma se gli vogliamo dare il diritto all'autodifesa, è normale che da sola, senza armi, l'Ucraina non si può difendere, perché sono le armi che vi fanno parlare di conflitto interimperialistico, sono le armi che arrivano, che dicono le armi, arrivano le armi dalla NATO e quindi la NATO è coinvolta. Beh, quando la NATO sarà coinvolta, manderanno i Marines, manderanno le truppe inglesi, manderanno le truppe turche, manderanno le truppe italiane, ma fino a prova contraria, ad oggi ci sono, ogni tanto parlano di qualche mercenario, di qualcheduno che fa la guerra in appoggio dell'Ucraina per motivi ideali, però complessivamente di soldati appartenenti alle nazioni della NATO fino ad oggi non ce ne sono. Quindi venite a raccontare quello che volete, preparatevi a fare la rivoluzione con quelli che appoggiano le azioni di protesta contro la guerra, ma fino a prova contraria, in Italia direzione politica non ce n'è, in Ucraina direzione politica non ce n'è, in Russia direzione politica non ce n'è, quindi al posto di venire qui a raccontare quello che fa il PCL, dovreste porvi il problema di come si costruisce un'organizzazione rivoluzionaria a livello nazionale e a livello internazionale, cosa che non vi passa neanche per l'anticamera del cervello, perché due eravate nel 1980, due continuate ad essere nel 2025. Io sono diventato vecchio, ero giovane, sono diventato vecchio, io non ho creato nulla, ho creato un'organizzazione di 1000 iscritti e militanti a livello nazionale, voi due eravate e ogni volta mi venite a fare la lezione, segno che la tua lezione non può portarmi da nessuna parte, perché è la lezione che non sta né in cielo né in terra, perché nei confronti dei compagni del PCL tu dovresti avere, visto che ti dichiari trotskista, un occhio di riguardo, perché non è che i trotskisti in circolazione sono tanti, e se vieni qui a rompermi i coglioni dicendo il PCL fa questo, fa questo, fa questo, ed è un partito riformista, figlio mio, io con te, ma non ci vengo neanche dove vuoi andare. Chiaro, per convincermi, la prossima volta che vuoi venire qui a parlare, visto che parli in questo modo, io non ti faccio manco parlare. Questo, noi no, noi sì. Lasciamo sempre parlare anche, no, anche i pazzi, anche i pazzi e le sette religiose. Certo, è il livello è quello di Scientology, ma purtroppo da origine americana ci sono le varie sette. Pensare che negli anni 70 e 60 non erano manco male, si sono fusi con un gruppo che diceva che la Russia era capitalista e hanno detto che questa era una divergenza secondaria. Unificazione del 66. Oggi l'avessero detto, avrebbero detto sciovinisti, traditori della patria. No, traditori del proletariato, scusa. Però allora avete detto che era una divergenza secondaria. Unificazione del 66, Ciccio Bello. Poi siete diventati... Basta, chiedo scusa. Chiedo scusa a tutti, anche ai due membri di Scientology, no, Spartaco. Altri compagni? Vabbè, allora se non c'è altro cerco di rispondere, perché anche qui non sarò brevissimo e cerchiamo di non andare a nanna troppo tardi, seguendo un po' le cose. E, mamma mia, avete paura di sentire la replica? Scusa? Cioè, rispondo. Figuratevi. Sì, Stanlio e Ollio, siete voi due. Chi è Stanlio di voi due? È più grassa lei, forse lei è Stanlio e tu sei Ollio. E ad ogni modo, sapete che qui nessuno nega il diritto di parola a nessuno, come hanno visto tutti i compagni, ce l'hanno detto di tutti, ma noi non abbiamo questo problema finché si tratta di parole. Detto questo, allora vediamo le cose un po' più serie. Dico solo una cosa per loro, diciamo, per dire l'organizzazione. Questa è un'organizzazione, per dire gli argomenti che ogni tanto troviamo, i loro cugini, perché su sei che sono in Italia, due hanno fatto una scissione e li abbiamo visti recentemente alla scuola, che abbiamo fatto in Toscana e hanno detto sono un pochino più gentili personalmente. Però il medico da te, c'è un compagno anche lì americano, che anche se 40 anni in Italia non guarda, c'è tradizionismo, bla bla bla. E quindi insomma siamo abituati. Ma lì siamo entrati su una questione, la questione della Cina. Questi signori, ed è importante dirlo, pensano che la Cina sia uno stato operaio degenerato. Oggi. Nemmeno uno stato capitalistico. Ora, come tutti sanno, l'80% del prodotto interno lordo cinese è dato dall'industria privata. Ora, Trotsky, qualche cosa c'entra anche, io credo, nel discorso qui. Anche nel discorso che ho parlato, Michele ti chiami? Michele. Trotsky diceva, e io sono pienamente d'accordo, non per dogmatismo, senza la proprietà sociale dei mezzi di produzione il regime dell'URSS sarebbe un regime fascista. Allora, il regime, adesso facciamo per fascismo, totalità, allora il regime cinese è un regime estremamente reazionario. Più reazionario di un regime borghese attuale, perché non c'è più la proprietà privata e il regime resta totalitario. Io se sono contro una guerra a Roma, a Londra, posso dimostrare, posso fare la mia battaglia, posso presentarmi alle elezioni. Sappiamo, siamo per la dittatura del proletariato, sappiamo che questa è una finta democrazia, ma guai al finto marxista, sapete che non diceva di Marx, di quelli che erano appunto pro-russi o cose perché era più progressista, che non considera l'importanza della democrazia borghese nei confronti del totalitarismo. Allora, Trotsky diceva, senza la proprietà sociale dei mezzi di produzione, l'URSS sarebbe un regime fascista. I signori dicono senza la proprietà sociale dei mezzi di produzione, perché questo, cioè, voglio dire, poi uno può dire che la terra è piatta e difatti molte volte ci arrivano vicini. Loro e non solo loro, anche gente molto più seria, purtroppo, questo è grave, a livello della terra è piatta. Dicono, dice, no, senza la proprietà sociale di produzione il regime stalinista è un regime, o l'ex regime stalinista, è un regime operaio. Va bene. Però allora sei un rosso bruno. E difatti quelli che hanno parlato o analoghi sono a metà tra l'ultrasinistrismo e il rosso brunismo. E il rosso brunismo è qualcosa di molto negativo nel movimento operaio. E al limite è anche al di fuori del movimento operaio. Adesso non so come possiamo definire l'amico e compagno Rizzo, ma è dentro o fuori il movimento operaio. Boh. Allora, detto questo, per rispondere brevemente lì, vediamo le cose, appunto, dicevo, un pochino più serie e agli interventi che ci sono nati. Allora, ci sono due livelli. Prima di tutto io credo, e questo mi meraviglia in compagni, tra l'altro anche amici che stimo, che manchi un elemento che anche nelle guerre in tempi imperialistiche e nelle guerre giuste c'è sempre stato nei leninisti, cioè l'empatia verso chi è colpito. Oggi noi abbiamo un attacco in cui sono i bombardieri russi che distruggono le città, che ammazzano migliaia di persone, sono i razzi russi, non è che è colpita Mosca. Allora, anche in una guerra interimperialista, la mancanza di empatia, per esempio quella che aveva Trotsky verso i norvegesi all'inizio della guerra, quando si poteva discutere ancora se era una guerra interimperialista, seconda guerra mondiale, cioè è un elemento che fa specie e che in Italia, io credo, deriva dal fatto che questa concezione poi in definitiva stalinista e maoista, no? Che c'è la rivoluzione culturale, 100.000 borghesi che sono stati giustamente ammazzati, eccetera, eccetera. È una cosa che col marxismo ha poco a che vedere, non perché siamo piagnoni, non perché non sappiamo che una guerra può dare milioni di morti, anche una guerra giusta, come una guerra civile, ma perché è un elemento fondamentale. Io capirei anche quelle cose che abbiamo detto, abbiamo fatto la battaglia nell'opposizione del CGIL, o per pensare alla posizione del CGIL, che è vergognosa secondo me nei fatti, per il pacifismo integrale che diventa... Se uno dicesse, noi siamo a fianco del popolo ucraino, che viene massacrato dai russi, dall'imperialismo russo, da Putin, i soldati portati al macello da Putin. Ci ho detto, dato che loro però sono agenti dell'imperialismo, non possiamo schierarci con loro. Questa è una posizione che io accetto. L'ho visto anche nel nostro partito, qualche compagno. E devo dire a Giuseppe che mi dispiace che lui non abbia questa posizione. Mi spiace che non ci sia questo elemento, che confonde l'elemento del il nemico principale del nostro paese con qualcosa che è diverso. Lenin nel 1915 scrisse al Vorwärts, il giornale socialdemocratici tedeschi, che avevano citato le sue cose contro i russi, dicendo guardate che dalla mia conferenza a Zurigo il 90%, se non più del tempo, io ho parlato contro l'imperialismo tedesco che ha scatenato questa guerra. Non è che il nemico principale del nostro paese fa dimenticare quello che è successo. Non è che Lenin dimenticava l'invasione del Belgio, tant'è vero che disse se ci fosse stata un'azione di addirittura questo, di polizia delle potenze imperialiste solo per liberare il Belgio e non per le colonie, il dovere dei socialisti sarebbe stato di appoggiare Francia, Inghilterra, Olanda per liberare il Belgio dall'imperialismo tedesco. Guarda com'era strano, Lenin, social sovinista, avrebbe detto il compagno. Questa è la realtà. Noi abbiamo un'aggressione violenta, di morte. Chi parla di guerra nucleare non è stato Zelensky, è stato Putin. Ma questo sembra non contare niente. E a questo punto il miscuglio delle posizioni diventa tra un ultrasinistrismo che però se non resta strettamente su quel terreno poi alla fine porta a rischiare di cadere, scusa io vorrei, Renato, io vorrei che anche, rischia di portare oggettivamente in un filoputinismo. Perché, vedete, già ho fatto già altri esempi, tanti. È chiaro che c'è nella posizione, poi dirò di Michele, di Giuseppe, un elemento di ultrasinistrismo. Mi spiace che sia misto ad altri elementi che considero molto più gravi. Trotsky, io ho già citato la questione della... e mi spiace che i compagni non intervengano. Dicono, vabbè, può darsi, ma non intervengano. Quando si è in difficoltà uno dice, allora, o Trotsky sbagliava oppure perché non è più valido. Trotsky diceva qualcosa sulla difesa dell'Etiopia. Trotsky, polemizzando sulla questione della Cina, disse questo. Se domani ci fosse un paese fascista, un imperialismo fascista, uso volutamente l'imperialismo, che rispetto a una rivolta contro un imperialismo democratico decidesse di mandare le armi a questa rivolta, cosa dovrebbero fare i portuali del paese in questione? Un ultrasinistro risponderebbe naturalmente niente perché noi non appoggiamo l'invio di armi. Io sono totalmente contrario. Anzi, dico che se ci fosse uno sciopero generale dei lavoratori dei porti in quel paese, possiamo vederlo poi, io adesso mi sono portato mezza biblioteca, ma non tutta, noi dovremmo dire che i lavoratori dovrebbero cessare lo sciopero generale per il tempo necessario a caricare le armi dell'imperialismo fascista verso il paese che lotta contro l'imperialismo democratico. Si può essere d'accordo, ma questa è la tradizione, secondo me è la tradizione leninista. La tradizione da cui tu parti, purtroppo però cadendo in una cosa, Giuseppe, è una tradizione diversa, legittima. Però non è quella di Lenin e non è quella di Trotsky. L'esempio della Cina. La Cina c'era Chiang Kai-shek, c'erano i comunisti, ma non si sapeva molto. Allora sembravano, nel 1936, dopo la lunga marcia, sembravano distrutti, no? Perché erano ridotti a pochissime cose. E quindi il problema era la Cina, che di Chiang Kai-shek, che lottava contro il Giappone. Trotsky lì scrive che noi dobbiamo appoggiare l'invio di armi alla Cina di Chiang Kai-shek. E a quello che obietta, ma noi dovremmo dire al proletariato, dice, non diciamo cazzate, le armi non può, perché qualcuno dirà, noi potremmo esercitare se vanno al proletariato ucraino. Sì, e se ci fosse la Repubblica Socialista dei Soviet Ucraini saremmo ancora più contenti. Ma non c'è. E Trotsky dice, oggi c'è Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek lotta per contro l'imperialismo cinese solo nella misura in cui i suoi padroni inglesi e americani, che erano quelli che gli davano le armi, glielo consentono, però è obbligato a lottare e noi dobbiamo dire che noi siamo perché si è armato e per appoggiare questa lotta nazionale. Chiang Kai-shek aveva massacrato centinaia di migliaia di comunisti pochi anni prima. Noi non siamo dogmatici. Aveva torto Trotsky, che riprendeva il metodo di Lenin in maniera precisa. Si pensi alla Turchia, che avevano massacrato gli armeni, eppure Lenin gli invia le armi per difendersi dai greci in quella città. Però questo, ci fu una minoranza della sezione cinese, per dire che sono dibattiti, una piccola minoranza, però ci fu una piccola minoranza che disse, no, siccome in realtà c'è anche Kai-shek, l'uomo di americani e inglesi, cosa che ovviamente Trotsky non negava, dobbiamo essere disfattisti, perché in realtà lotta per l'imperialismo americano e inglese contro cui ognuno per dividersi le colonie nel Pacifico, e se c'era una guerra interimperialista era proprio quella del Pacifico, perché non c'era nessun elemento, non c'erano gli ebrei massacrati come c'era in Europa, nel Giappone, no? Nell'Asia. E questo è il metodo. Ma il rischio è poi di cadere in posizioni che sono di sostegno a una delle parti. E ti spiego perché, secondo me, stante la realtà che non è un'astrazione, se tu oggi dici, per chiunque sa e sa le cose, che non sono cose che passano lì, ma l'avete letto i giornali? Quanto gli americani, Zelensky litiga perché non gli vogliono dare, ti diamo 8 carri armati e non 200 che ti aveva chiesto, su 1000 contro te ne diamo 50. Ma cosa sono? Il complotto di Trump? Beh, in questo caso sarebbero dall'altra parte, tra l'altro. Non gli vogliono dare tutte le armi necessarie, forse perché vogliono continuare la guerra, perché semplicemente, secondo me, perché hanno paura di entrare in guerra con l'Unione Sovietica, con la Russia. Nelle condizioni date, boicottare le armi, anche se fossimo su una posizione di disfattismo bilaterale, io mi opporrei al boicottaggio dell'invio di armi all'Ucraina, perché dire questo, quando i rapporti di forza sono tra Davide, tra Golia e Davide che non c'ha la fionda, e tu dici la fionda la boicottiamo, significa dire viva Golia. E quindi la tua posizione, mi dispiace, io so che parlo molto, sempre molto franco, con tutti i compagni, diventa alla fine, dall'ultrasinistrismo, un appoggio a una posizione reazionaria. È la prima volta, Lenin usava questo argomento contro la Rosa Luxemburg. Adesso non adesso non voglio dire che sei come Rosa Luxemburg, non mi sentirei non tirarti troppo su, però è una posizione, perché la sua posizione sulla Polonia, dice tu, la tua posizione sulla Polonia in realtà, partendo da un ultrasinistrismo, diventa una posizione reazionaria che avvantaggia l'imperialismo russo. E diciamocela anche tra, perché così discutevano i bolscevichi e i socialdemocratici all'epoca in cui erano rivoluzionari. Mica avevano paura di dirsi le cose, no? E quindi diciamocela, però io te lo dico, perché la tua non è solo una posizione di disfattismo, è una posizione di appoggio a quel sentimento ultrapacifista che nelle condizioni dei rapporti dati diventa sostegno alla Russia. Per questo io dico pacifinti, scusa, adesso io non so se sei di un'organizzazione, ci sei stato, ma quelli che sono stati, che hanno votato per l'invio delle truppe, per il finanziamento delle truppe in Afghanistan, per il finanziamento delle truppe in Iraq, e se fossero stati al governo oggi invierebbero quello che vuole la cosa, se non sono pacifinti, questi sono gente che hanno messo il pacchetto Treu, se pensavano che gli servisse per restare al governo, avrebbero messo la schiavitù dicendo che almeno la gente aveva da dormire e non stava per strada, come gli argomenti dei confederati nella guerra civile americana. Se non sono pacifinti tonti, questi sono degli squallidi, poi uno può conoscere, ma sono degli squallidi che dicono a seconda se sono al governo o meno. I pacitonti, lo dico per questo elemento, perché tu non puoi dire due cose. Uno, non mandiamo le armi perché così apriamo la trattativa. Putin ha detto non la vuole la trattativa. Appunto, però allora vuol dire, lo so, ma non stavo dicendo che tu l'hai detto, però io ti dico quello che dice Putin. Se Putin non vuole la trattativa, quello che dice, quelle cannonate, dice andiamo tutti, mi ricorda, sapete che cosa? Di Battista, che diceva quando c'era l'ISIS, bisogna trattare, non fare la guerra, bla bla bla. Allora, io dico, non so chi era tanto un reazionario, però l'ambasciatore iracheno gli ha risposto veramente una cosa che mi ha fatto morire da ridere. Ha detto, se il signor Di Battista vuole andare a trattare con l'ISIS, io il visto per l'Iraq glielo do oggi pomeriggio e poi si arrangia lui. È ovvio, non c'è trattativa. E quando, non mi ricordo quale compagno, se tu o Giuseppe, ha parlato del Donbass, a parte un po' l'esasperazione, ma se era il Donbass il problema, perché non ha attaccato in Donbass? Ma noi abbiamo i nostri compagni russi che, rischiando la galera, hanno detto riga su riga qual è la verità. L'avete letto? L'avete studiato? Perché è da studiare la dichiarazione dei nostri compagni russi. Quando io ne ho citato solo una frase in questa dichiarazione, ma sarebbe da riprendere, se il compagno non ce l'ha, sarei contento di mandarla. La dichiarazione del 24 febbraio. La Russia ha iniziato la guerra con l'Ucraina nascondendosi ipocriticamente e falsamente dietro le sofferenze del popolo lavoratore della Repubblica Popolare di Donetsk e Lugansk. Nessun ragionamento sul contenimento della NATO, nessuna critica del regime politico ucraino e nessun'altra fesseria geopolitica può giustificare questa strage. Compagni russi, cosa sono? Peccato che non ci sono. I nostri compagni russi sono 500, 600, forse adesso stanno costruendo un po' di più, perché nella gioventù comunista a sinistra qualcuno si è rotto le spalle di stare dietro uno che appoggia a cosa. Erano diverse centinaia la manifestazione il giorno prima, li hanno lasciati andare fino alla Piazza Rossa, ma era il giorno prima della guerra. E poi no, li arrestavano anche se passeggiavano in Piazza Rossa. Poi per fortuna, appunto perché sono piccoli, li rilasciano, salvo qualcuno che è un paio che sono ancora in galera. Social sciovinisti pro-imperialisti, i compagni russi. Ma ha detto una cosa elementare. I comunisti in Ucraina adesso come sono trattati? Questa è una domanda importante. Allora, i comunisti in Ucraina sono stati messi fuori legge, i partiti, però da Poroshenko inizialmente. però Poroshenko ha chiesto che venissero arrestati i leader. Siccome in Ucraina c'è ancora siccome in Ucraina c'è ancora la Corte Suprema, ha respinto l'arresto, quindi sono stati rimasti tutti liberi. Alcuni sono andati in Russia. Dopodiché ci sono due partiti che sono la copertura, uno della sinistra generica e l'altro del Partito Comunista, che partecipano alle elezioni. L'uno ha preso l'11% e l'altro il 4%. E hanno deputati. Adesso tu hai sentito cosa ha detto il sindaco di Mariupol? Quale? Quello russo? No, quello prima. Quello russo, vabbè. Ha detto, hanno fatto Auschwitz. Hai sentito cosa ha detto il sindaco di Odessa? Allora, il problema è che tutti questi due erano di due partiti che formalmente sono fuori legge oggi. E quello di Odessa ha detto, io amavo la Russia, ma adesso non la amo più, e adesso sono ucraino, e amo Odessa. Non c'è nessuno in Ucraina oramai, a parte qualche piccola minoranza, probabilmente filofascista, che sta con i russi, anche tra i russi. Se il popolo ucraino non esisteva, l'ha creato Putin oggi. Perché quando uno ti bombarda, il nome che vuole tutta l'Ucraina, hai smesso di essere filorusso. E questi sono di due partiti messi fuori legge, formalmente. Il sindaco di Odessa, andate a vedervi le cose. Però la cosa non è meno grave. E tra l'altro adesso c'è l'attacco di Zelensky per conto della borghesia ai diritti dei lavoratori, contro cui si è costituito un fronte operaio che dice i nostri giovani sono tutti al fronte, ma noi restiamo qui e difendiamo i diritti dei lavoratori. Sono al fronte per difendere l'Ucraina. Però ti ha mai detto qualcuno che nella Repubblica di Donetsk tutti i partiti di sinistra sono fuori legge? Nella Repubblica di Donetsk popolare, quando ci fu l'insurrezione, c'era il Partito Comunista ucraino. Dopodiché si divise. La maggioranza del Comitato Centrale disse che loro in ogni modo non appoggiavano gli oligarchi locali. E poi sono divisi, come succede, in 5-6 partiti. Fronte Operaio Rivoluzionario, bla bla bla. E la minoranza invece ha detto siamo noi il Partito Comunista. Questi sono legali, gli altri sono stati messi tutti fuori legge. C'è una differenza però. Hai mai sentito parlare dei battaglioni operai del 2014? Io ti ricordo che fino al 23 febbraio, l'ho detto all'inizio, di quest'anno noi abbiamo sostenuto il diritto del popolo del Donbass, di Donetsk, di difendersi dagli ucraini, perché era loro diritto l'autodeterminazione. Anche loro. Solo che ubi maior minor cessa. Il problema diventa prioritario e secondario. Sai come sono? Motorola. Io vorrei aver fatto un dibattito con quel compagno che è andato lì, quello del comandante Nemo. Sai dove sono finiti Motorola, Batman? Sottoterra. E sai chi li ha ammazzati? I servizi segreti della Repubblica di Donetsk. Lo dicono i loro compagni, però saranno sbagliati. E hanno detto, questa è la guerra di Putin. Io non lo so cosa fanno adesso, ma prima dell'inizio della guerra hanno detto, questa è la guerra di Putin. Noi non ci schieriamo con chi ha ammazzato i nostri capi dei battaglioni operai del 14. Perché queste cose non vengono dette in Italia? Altro che pensiero unico, perché in Italia c'è un pensiero unico tra la NATO, i pro-NATO, i liberali e i putiniani, semiputiniani, pacitonti e pacifinti. Fa anche audience, se litigano. C'è quel professore deficiente che dice quello che era anche contro i vaccini e si buttava a fare il bagno nel Po inquinato, che dice che certamente la strage di, come cazzo si chiama, scusate il termine, il nome Buccia, lì l'ha fatta gli ucraini, è ovvio. E difatti Stalin non ha ammazzato i dirigenti del Partito Comunista, li hanno fatti fuori gli inglesi, oppure erano veramente agenti degli inglesi. il livello è quello lì. E scusami, le famose, questo rientra nelle tradizioni, no, degli imperialisti, le famose industrie di fabbricazione delle armi chimico-batteriologiche, di cui parlavano i putinisti, semiputinisti, pacitonti e pacifinti in Italia, scoperte 2 mesi fa dai russi. Dove sono andate a finire? Non ne parlano più i russi? Perché? Se li sono presi loro, se li sono bevuti? O era una palla clamorosa come quella degli imperialisti americani rispetto all'Iraq? Il punto, caro compagno, mi scuso, ma voglio convincere, non lo voglio insultare, sia ben chiaro, ma lo faccio alla maniera bolscevica. È che voi, molti di voi in Italia, considerano che ci sono sinistra e destra. E a un estremo c'è l'imperialismo americano, all'altro estremo tutti quelli più sono distanti da quello. Non è così, vivete in un mondo vecchio. Noi eravamo per la difesa dell'URSS, per la difesa della Cina. Oggi ci sono imperialisti e più sono, non per schierarci con uno, ma più sono nuovi, più sono aggressivi, perché ovvio, devono conquistare terreno. Non è un argomento, dice, ma sono più deboli. Ma certo, sono più deboli e quindi sono più aggressivi. Ma l'imperialismo americano è molto 100 volte più forte, no? No, non è 100 volte più forte. Dov'è 100 volte più forte? Dimmi dov'è 100 volte più forte. Ma non è 100 volte più forte. Non è 100 volte più forte. E ti sembra niente? Ma non è vero neanche questo, non è vero neanche questo. E poi c'è una differenza, che Putin fa quello che vuole, perché se tu hai visto, è questo che non riuscite a capire, che Putin è una dittatura, no, Putin fa quello che vuole. Qua, avete visto la conferenza quando c'era quel poveraccio dei servizi segreti che gli ha fatto un culo così? Biden non se lo può permettere, e questo è un elemento di debolezza. Mai visto la forza degli imperialisti americani? Ma se li hanno cacciati i talebani, che tra l'altro noi siamo stati storicamente persino con i talebani contro l'imperialismo, per dire la nostra patente, sempre contro l'imperialismo. E allora in realtà non c'è da scegliere, ci sono 2 imperialismi aggressivi. In un settore imperialista, perché ci sono finché dureranno le vecchie conquiste democratiche, noi possiamo parlare liberamente. In altri imperialismi, in Cina senz'altro materialmente, in Russia un po' così così, finisci in galera. Questa è l'unica differenza, che tra l'altro io ci tengo a poter dire adesso quello che dico e non finire in galera qui in Italia. No? E anche tu quello che dici, perché se dicessi all'incontrario in Russia finiresti in Siberia. E allora, caro compagno, voi vi schierate, tu ti schieri. Ma io ho rocolato quello che mi dice il governo ucraino. Ma dove? Dimmi un fa. Allora, tu mi dici, perché tu, allora, vedi. Tu dici che a Bucha sono stati i russi. Va bene, sono stati i russi. Ma tu che ne sai? A Mariupol, che hanno sfondato tutte quelle case, era pieno di nazisti. Qualcuno dice che era pieno di nazisti. Ma scusami, ma se ci sono 500 giornalisti internazionali. Sono tutti, c'è il complotto. L'unica soluzione che trovate è che c'è il complotto. Ma guarda i telegiornali, le televisioni italiane, sono tutte schierate. Ma dove che fanno parlare? Ma non parliamo noi, non parliamo gli internazionalisti. Ma sono tutti schierati con Ah sì, il professor non è mai stato tanto presente in televisione. Ah no, ah, perché Santoro no? Ma come? Allora, scusami, tu mi hai interrotto. Allora, quando sono questi livelli e niente, come quelli che quando c'era Russia dice no, è chiaro, se il tribunale del popolo russo ha deciso che Bukharin, Trotsky, Zinoviev, eccetera, erano agenti degli inglesi fin dal 1905, quindi la rivoluzione russa è stata fatta diretta da agenti dell'imperialismo, non c'è più niente da discutere. Però compagno, se è questo il livello, non ci stiamo. Perché ho detto che quelli era il tribunale del popolo, quelli che ha fatto fuori. E però lo dici oggi. Perché? Come tu tra. Io travisi. Non mi sta bene che tu travisi. Allora cosa hai detto allora? scusate, effettivamente stiamo diventando un dialogo. Io no, questo no, non c'è niente da discutere. È chiaro, secondo me il compagno è nei fatti un compagno semi-putiniano. Per me così posso dirlo o devi darmi il permesso tu? Non neanche del filo putiniano, non mi offendo mica. Appunto, e io invece mi offenderei. Vabbè, dice castronate perché sta sentendo. Ma lui fa. Guarda, allora, come al solito, quando la gente non sa rispondere, risulta con insulti. Allora, ti dico che sei un filo Zelensky, ti sta bene? Non è vero. E perché ti sei schierato con Zelensky, col governo di Zelensky e con la guerra? Sì, benissimo. Va bene. Senti, qui noi siamo una cosa. Ma scusami un attimo, compagno, perché voglio solo una cosa per chiudere. Tu sei venuto a un dibattito, hai visto della gente che ci ha insultato, noi abbiamo lasciato parlare tutti. Ma tu vuoi dirci come dobbiamo concludere il nostro dibattito? No. Hai detto la tua, dici che non sei d'accordo, buonanotte, ciao, non venire più ai nostri dibattiti. Ma che cazzo vuoi da noi? Quello, l'unica cosa che mi fa incazzare è che io devo dirti, devo dire quello che pensi tu. Hai detto la tua e io ti ho risposto. Tu mi hai risposto dicendo che sono un filo tonto, un putiniano, ma hai risposto così. Va bene, e tu non sei d'accordo. E io non sono d'accordo. Benissimo, non mi interrompi però. Tu sei un filo zelensky, tutto qua, la discussione. Se continui così sei un provocatore. No, no, perché hai provocato tu. Il compagno non è un provocatore. Ma tu lo conosci? Il compagno non è un provocatore, è un compagno con posizioni diverse dalle nostre. Però non può interrompermi la mia cosa, no, deve avere ragione lui, scusami. Ma nessuno ha ragione. Se hai finito? Sì, stavo finendo, dicevo, la posizione del compagno è oggettivamente una posizione assolutamente... Secondo me loro vedono questa cosa in questo momento per cui se i curdi fanno l'alleanza con gli americani, va bene perché sono di sinistra. Se la va, è come quei compagni, e io voglio dire la mia, e tu non hai diritto di replica qui, è un dibattito pubblico nostro, PCL, fatti il tuo dibattito se vuoi, come quelli che dicevano che se il patto con Hitler la faceva Stalin, era legittimo perché lo faceva Stalin. Per me sei a quel livello, punto.